Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, buongiorno, bentornati. Oggi ultima puntata prima di un greatest hits estivo di Voice Anatomy. Grazie davvero di volerci così bene come sempre. Apriamo, intanto saluto il mio tecnico del suono che sta controllando che le cose funzionino a dovere, ma credo che stia pomiciando con tutto l'amplificatore, ma non funziona niente, non mi sento, però va bene, questo è importante. Il fatto che non mi senta è fondamentale. Adesso mi sento. Oggi studio ricco, mi ci ficco, come dicevano in qualche modo. Vorrei cominciare come sempre ricordando una voce, non solo, che ci ha regalato tante emozioni. 8 anni fa se ne andava salutandoci Michael Joseph Jackson, proprio il 25 giugno di 8 anni fa, e noi vogliamo ricordarlo un attimo, la sua bellissima voce che ci racconta come diventerà la terra se non facciamo qualcosa. What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? E allora, con un abbraccio al grande Michael Jackson, abbracciamo invece le persone presenti in studio, che sono tantissime. Allora, come sempre, ogni tanto mi vengono a trovare i Baraon, eccoli qua. Ciao a tutti. Eccoci. Ciao Pino. Entusiasti come sempre. A proposito di voci, insomma, no? Voi siete i presentatori ottimi per quanto riguarda i nostri ospiti alla mia sinistra, che sono due. Un uomo non bellissimo, ma molto bravo, una donna bellissima e anche molto brava. Abbiamo pareggiato. La volete presentare voi con un suo pezzo? Oh yeah. Che ha lanciato. Possiamo nella... fare un giusto omaggio. Un piccolissimo omaggio. Una riduzione più che un omaggio, esatto. Dai, sennò un tutto gratis, che... mi sembra brutto, dai. Un brano che ha fatto la storia, questo, eh. Eh sì, che è stata lanciata nel... nell'iperuranio musicale. Tutto in diretta, eh sì. Presentazione a cappella, niente male. Allora, grande, grazie. Eccola qui, la voce che sentite è uno splendido italiano, anche se lei è Stewart di cognome ed è nata a Washington DC. Yes. Amy Stewart, signori. Ciao. Thank you. Non vi dico quando è nata perché sarebbe un'offesa per chi è nato dopo. Ma no. No, è veramente... No, no, è una... non si dice l'età delle femminucce, a parte che se su Wikipedia c'è scritto quanti anni hai, poi uno... Meno ti male vede che foto. È sbagliato. Cioè, è sbagliato pure lì e io non correggo. Ah, perché ti dà più, no. Sei più giovane di un anno, ti dà... Non sì. Dico niente. Si avvale del quinto emendamento, non come succede in America. Però so... Ah, senti, la conosce non quella canzone, niente. Amy Stewart? Beh, comunque avevi già 48 anni quando hai cantato No Con Wood la prima volta, per cui fatevi i conti. Molti meno, 78, 79. Ti do un schiaffo. Hai capito? Mi dà uno schiaffo, l'ho dato da lei, ragazzi. Tanto dopo vedete una foto e vi rendete conto, io ho molti anni meno di lei e lei sembra mia figlia. Allora, non è da sola, non ha l'accompagno, no. Mentre... Amy è l'accompagno del grande musicista al suo fianco, che è Gerardo Di Lella. Bentornato. Ciao a tutti. Dopo ciao una tutti. Bella passeggiata con Diashur, dopo un bellissimo sottobraccio con Gloria Gaynor, adesso ti abbraccia Amy Stewart. Grandissima Amy Stewart. Stai allungando i tempi per cantare insieme io e te, non capisco questa cosa. No, cioè, no, mi no. Devo abbronzare pure io, chiamarmi in un altro modo. Non ho capito perché. No, la facciamo prima o poi. Tu dici quando in chiusura di carriera, poi. Fine carriera. Però, ma almeno fammelo presentare un concerto che fa. Uno, aprire. In ogni caso la carriera a quel punto. Tu sta zitto e lavori con me da anni, perché mi sputtani in questa maniera. Intanto io ringrazio come sempre dall'altra parte del vetro Alessandro Puntuale, la nostra caporedattrice di se stessa Rachele, i miei autori Mauro Meconi e la capoprogetto Alessia Navarro, e poi vari ospiti che sono dall'altra parte dello studio, amici, parenti e quant'altro. Grande Amy Stewart, insieme a Gerardo ti fai questa, sì, bellissima avventura. Poi parleremo ovviamente di te, perché di Gerardo ne abbiamo parlato a lungo e... ma insomma poi a lungo, 2 minuti, una carriera rapidissima. Quando nasce questo evento, Gerard? Ma nasce quando ci sarà questo evento. Quando il 15 luglio faremo la Versiliana, un festival importantissimo, e questo progetto praticamente nasce con questo festival. Sì. È sulla scia di quello che ho appena fatto con Gloria Gaynor, è leggermente ovviamente variato, cogliendo l'occasione dei 40 anni della febbre del sabato sera, cioè tra il 77 e il 78, c'avevo 18 anni, gli anni 70 raggiungono il culmine. Noi in questa ricorrenza, insomma, quest'anno ci daremo da fare per presentare questo progetto, che inizia appunto la Versiliana il 15 luglio. Amy è una delle protagoniste proprio in assoluto più importanti di quel periodo, è quella che ha fatto conoscere Knock on Wood in tutto il mondo. Sì, è vero. Eddie Floyd l'ha scritto, è vero, certo. Però sì, ovviamente il pezzo era un pezzo come tanti in quel periodo, importante, sì, però il grosso pubblico l'ha conquistato con la versione di Amy Stewart. È vero, come Gloria Gaynor ha portato al successo. Quanti milioni di dischi sono stati venduti con allora? Te? Allora 8 milioni, 8-9 milioni solo in quel periodo. Solo poi pensa nei 40 anni successivi cos'altro è successo. Quindi, bussando nel bosco, questo no, sul legno vabbè, perché porti io mi chiamo Pino, come la tua capoccia, esatto, non dico, si capisce che sei de Pietralata, cioè Amy Stewart è cognome come sulla capoccia, cioè, no, si capisce, detto il romanaccio, l'hai detto in romanaccio, no. Stewart, tu sei parente di parla anche napoletano lei, se vuole, com'è? Per questo è Boys Anatomy, scusate tutto, com'è il napoletano sulla tua capoccia, come si dice? No, una capoccia è romanaccio. È romanaccio, perché lui è di origine napoletana, come i miei amici alla mia destra. Non lo so veramente napoletano come diciamo. In inglese com'è? Knock on the head. In cap. È bella questa. Quando hai fatto la tournée ricordando Napoli? A parte questa cosa che magari le sfuggi, io l'ho sentita parlare napoletano benissimo, perché lei ha frequentato, ha fatto molte cose anche a Napoli, quindi è una che assorbe subito. Io adoro Napoli. Napoli non si può che amare, però vivi in Sardegna tu. Sì. Sì, io vivo in Sardegna, la mia residenza è lì. Esatto. Io tuo marito, facciamo così. Sardo tuo marito? Mio marito è romano. È romano, scusa. L'hai portato in Sardegna perché? Perché Sardegna è bello e lui mi segue, no? Io seguo lui segue me, facciamo certo tutto punto quanto insieme. E a Sardegna, vedete, ci andiamo a vivere. Vedi che lo lascio mio marito a Roma, io sono in Sardegna. Oh. Se tu decidi quando lasci tuo marito, io lascio mia moglie, decidiamo nello stesso momento. No, sarebbe uno grande sbaglio, perché la tua moglie è da tenere stretto. Sì, me l'ha detto anche il commercialista. È vero. Senti, tu hai cominciato, facciamo questa carriera in the beginning, cioè il Festival di Sanremo, questo è stato, e poi il tuo grande amore per tuo marito, insomma, quando nasce la passione per l'Italia? Per l'Italia è una cosa molto strana, perché la prima volta che sono arrivata in Italia era per fare la promozione per Knock on Wood, no? E vivevo a Londra. Sì. Lo sai, in quegli anni tu arrivavi all'aeroporto, aprivi le porte. No, ma non dire parolacce. Ringrazio Dio che siamo lontani, okay, perché se no... Ringrazio Dio. E allora, apriva la porta, sì, e arrivavano le scale per scendere. Non c'erano i tunnel, i finger. Non esistevano. Che si chiama allora, Goldfinger. Non credo che c'erano. Quando arrivano, come arrivi? Goldfinger, oppure no? Va bene, scusa. Apriva la porta, sì, io sono uscito, ho guardato intorno, e qualche cosa mi ha detto... Restiamo questo qui. È il paese per te. Ma... guarda, l'aeroporto di Fiumicino non è un sì, granché. Sì, non è che abbiamo detto. Non sì, è che l'ho è che visto, bello, non lo so chissà sì, che, ma sapevo dentro di me che sarebbe stata una cosa importante. Tu sapevi che io vivevo in Italia, però? No, tesoro, questo non sapevo. Non è se stato no, questo. Avresti sei scappato. Tornato indietro. Certo. Mica che sono scema. Ecco, va, Amy! Ma insomma, guarda, io sono qui, meno male che Gerardo, gli amici, Barone. Sono degli amici miei, Amy, ho detto che siamo amici. Sei sicuro che bene. Questo è tuo amico? Beh, insomma. Ma sei sicuro? No, io non sono sicuro più su di te che sei mia amica. Io e Gerardo sono sicuro che è mio amico. No, ti voglio bene. Ma sì, no, ma questo se non si gioca un po', ecco. Amy, anche perché le persone dovrebbero conoscere chi c'è dall'altra parte. Sì. della voce, cioè il cuore delle persone. E la radio, come un buon libro, non mente mai, perché qui sentono soltanto la voce. La voce. E la voce dice la verità, come si dice l'occhio è lo specchio dell'anima. Secondo me la voce è lo specchio dell'anima, questo è l'elemento di comunicazione anche. Che c'è più importante al mondo. Per questo Gerardo sta zitto e dirige. Capito? Grazie. Prego Gerardo. Bene, lancio la Versiliana il 15 luglio. Ma sai che anch'io forse sarò la Versiliana in sostituzione? Sì. Non ma che dovevo forse? Ci deve essere. No, no, vede voi, devo lavorare alla Versiliana, verrei anche a vedere voi. Ma vieni anche a vedere noi. Certo. Se vai, e poi chiedo, e poi mia moglie dice: beh, senti, cerca pure un buon avvocato. Allora, siamo arrivati alla fine del primo blocco insieme, tranquilli, sereni. Staremo tanto insieme, cominceremo questo bellissimo percorso di Amy Stewart insieme a Gerardo. Gerardo è stato lo spunto per avere anche Amy e tornare a parlare con Gerardo, che è veramente figo, che fa delle cose divertenti, grazie, intelligenti. Molto. No, è bellissimo che sei. Io purtroppo mi accompagno con i Barone e loro con me. Tu invece scegli dei compagni d'avventura un po' più, no, altisonanti. Va bene, signori miei, restate qui con noi perché Voice Anatomy è appena cominciata. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, eccoci qui in compagnia dei miei amici, colleghi, colleghi fino a un certo punto, perché sono cantanti straordinari. Barona, grazie per accompagnarci in tutta la puntata. Dall'altra parte Gerardo Di Lella, grande compositore, direttore d'orchestra e quant'altro, e la bellissima e bravissima Amy Stewart dall'altra parte. Senti, è una cosa invece che fa piacere a tutte e due e anche a chi ascolterà. Dimmi. Abbiamo parlato prima dell'amico Francesco che non c'è più, Mike Francis. Ah, non amico, è mio fratello. È veramente indimenticato, indimenticabile, sì. Mike Francis, sì. È Francesco Puccioni. Veramente mi commuovo ancora ripensando. E tu poi hai fatto delle avventure meravigliose con lui, musicali, insomma, è stato la tua permanenza anche in Italia è confermata dal grande rapporto con Mike. Lui è una delle prime persone che ho conosciuto lì alla RCA. Sì. Era Francesco. Che e mi ricordo pure il giorno che siamo conosciuti. E lui aveva questo sorriso così sincero. E lui era molto timido, ma così dolce. E posso raccontare un libro sulla dolcezza di Francesco? Allora, ascoltiamo la tua voce insieme alla sua. Siete amici e questa era ed è e sarà per sempre. Friends. C'è la televisione, è dura, possono inquadrare i tuoi occhi meravigliosi che stanno raccontandoci tutta l'amicizia per Francesco. Sì. Io ho conosciuto subito, ho appena fatto quel Survivor che è rimasto subito nel cuore di infatti chiunque, e anche il lato B non era male, Let Me In, che era bellissima. Sì. Io pensavo questo americano straordinario, invece Francesco era da Roma e viva Roma. Sì. Infatti discutavamo sempre Puccioni. Esatto, discutavamo sempre su Roma e Lazio. Se n'è andato troppo presto, fortunatamente ha fatto in tempo però a regalarci, a lasciare tante belle cose. Come siete incontrati con Francesco? Sì, alla RCA, insomma, siamo incontrati alla RCA. E stavano cercando un gruppo di persone per comporre la musica per l'unica artista straniera che in quel momento stava alla RCA, che ero io. Certo. E dopo Grazie perché sì, è stato un enorme successo, e loro stavano cercando poi di trovare materiale che era più nelle vene di un artista internazionale. Certo. E Francesco aveva questo suono così dolce, così limpida e, sì, e gioiosa, easy, proprio una questa cosa batteria sensuale, elettronica ancora moderna. Sensuale, ancora moderna. E ci siamo trovati subito, subito. Abbiamo fatto un disco insieme con, anche con Paolo Micioni. Sì, Paul e Peter Micioni, easy going. Sì, sì, sì, sì, sì, sono stati dei bei tempi. Mamma mia, sta prendendo una tristezza. Che no, serate, no, tristezza allegra. No, no, triste nel senso. Triste se no, ripensando quanto ero giovane. Non ho avuto la possibilità di vivere quegli anni. No, quello sicuramente. Anni. Gli anni meravigliosi, mamma è vero, mia, anni non meravigliosi. Non cambierei per nulla nel mondo. No, no, assolutamente. Non li mettiamo questi pezzi nel vostro spettacolo? Io ancora non glielo ho detto, stavo pensando di fare proprio un'operazione. Del genere, sì, sarebbe bellissimo. Questi due, guarda, ne sentiamo anche l'altro perché dopo amici anche insieme, sì, no? Together. Allora, dai. Together. You won't see a change in me. They say I'm just a dreamer, but they could never know my dreams. No. I love a young lady. Everyone special kind. Sweet little love sensations that always keep love out of sight. Out of sight, love is out of sight. Now you broke my heart in two. Once again we fake it. Come on baby, we can stay together again. Bella voce poi, bella radio. Vai, vai Emi, dal vivo. Ti fa sorridere, no? Sì, sì, è vero. Io ricordo sempre gioioso di Francesco. Sì. Bello, bello, bello. No, Gerardo, dai. Bisogna farlo, sì. L'ho pensato, giuro che l'ho un pensato. Un mix fra Together e Friends, un progetto, progettino un progetto di tre minuti. Per questa, sì, bisogna trovare la ricorrenza, ma la musica c'è tutta. E dai, la musica c'è poi tutta. Vengo io a cantarla, così roviniamo il ricordo di Francesco. Mi si propone davanti. Senti, abbiamo però, diciamo come sempre nello spettacolo, lo show must go on, lo show deve andare avanti, sì, sempre col sorriso e col ricordo forte, esatto, di queste persone, sì. Io ho i Barahona che li ricordo perché sono qui. Ce lo fate un pezzetto, sì, di show must go on? Oh, sì. Eccoli, live. Empty spaces while we're looking for abandoned places. Yes, we know the score. On and on. Does anybody know what we're looking for? Show must go on. We'll give anything you want. Somebody to love. Show must go on. Love and champions, my friend. I face it with a grin. Di servizio al mio amico Alessandro, l'aria condizionata è accesa quando è rosso o bisogna spingere quando è rosso? Bisogna spingere, no, è accesa col rosso, ma che forse perché siamo 12 in puoi spogliarti Emi, tranquillamente, visto che ti stai sventolando in maniera, c'è Gerardo che ha preso uno sturbo, c'è tuo marito dell'arte, sei ricordo sei spogliato? Spoglio io. Beh, non me lo faccio di tuo, ragazzi. Spoglio tu. Leva da gambe sei. Spoglio io. Com'è leva da gambe? Voi siete napoletani pure voi. Ma poi sanato, trasmissione Radio seria, 24, la radio di Confindustria. Seria perché ci sono io fino a un certo punto, può essere serio, ma sempre molto filologicamente attenta. Spogliati tranquillamente. Bella, voi da quant'è vi conoscete? Come è nata? Beh, hai telefonato tu, come hai fatto, come sempre lo stalker di tutti quanti? No, lui va in America, ha bussato, Frank Sinatra, Frankie, oh, gli si è messo dentro casa, questi non se n'è più andato in America finché non ha collaborato con i più grandi jazzisti del mondo. Non sapete, lui è così. Può essere denunciato, bene, Gerardo, può essere bene, denunciato. No, ma questo è molto, ma sai, Gerardo, siamo conosciuti anni fa e poi c'è sempre stato questo desiderio di collaborare insieme, ma per trovare il momento giusto, certo, il punto giusto, con il progetto giusto. Se no, se una di queste cose non c'è, non funziona. E come quando non cerca, chi ha chiamato per arriva più? Esatto, chi ha chiamato prima, Gerardo? Lui ha chiamato per prima, ma questa certo volta noi abbiamo chiamato perché abbiamo capito che c'era un progetto che era credibile, cioè, siete chiamati insieme, che aveva un senso, un motivo, un senso, perché anche per me questo è il momento di Knock on Wood, avrà anche Knock on Wood quanti anni? 40 anni. Allora c'è un senso per tutto, per certo creare un progetto proprio intorno a questa bella musica. Però dopo Versiliana non muore lì, insomma, Roma. No. A Roma non lo so, dipende se ci stai. Io ci sto. Non veniamo. No. La figlia di Jimmy Stewart è Rod Stewart, Amy Stewart, lo sapete? Lei è la figlia segreta di Rod Stewart. No, verremo. Beh, dobbiamo, non lo so quando veniamo. Intanto faremo anche lo Sferisterio di Macerata, che è un teatro bellissimo, il 29 sì, agosto. Bellissimo. Sì. Il 30 è la mia festa. Interessa? Veramente? Di agosto? 30 agosto, Vergine, ascendente Cancro. Fa qua, fa. Allora devi... No, devi venire allo Sferisterio, facciamo una grande Sferisterio. Festa. A me mi sembra un'operazione d'interno. Ti sei mai operato allo Sferisterio? Non so manco dove, come ci si arriva allo Sferisterio. No, è bello, lo conosco, sto è giocando, bellissimo. Però c'è un nome impossibile, però. Lo Sferisterio. Dice bene lei. Se lo dico io, lo puoi dire te. Sferisterio. No. Bene, pubblicità, no? Mi sembra che dobbiamo andare in pubblicità fra 30 secondi. Cioè, parla meglio lei l'italiano, lo parlo io. Io già in inglese sono terrificante, parlo con le frasi idiomatiche dei film che doppio, con quei pezzetti parlo e nient'altro. Gerardo, tu parli inglese, sì. Abbastanza. E come ci hai parlato con la Regain? Mica parlava napoletano. No, lui parla benissimo, perfettamente inglese. Ma perché lo difendi così tanta spada tra me? No, ma è vero! È vero! Allora, va bene, allora chiudi questo, mancano 10 secondi per andare in pubblicità. In inglese, come i veri speaker americani, chiudi tu quest'anno. Vai Gerardo. Io? No, io. Vai. Che devo? Dobbiamo andare in pubblicità. Okay, vai. Vabbè. Compra una consonante. Gerardo, metti una bacchetta. Fa la figuraccia. Ho capito, avete massacrato. Ma incontro piede. Dove dici? Ci sentiamo fra pochissimo. Quando vado, ho detto la vita, mi andiamo in pubblicità in inglese. Quando mai? A tra poco con gli amici dei Barahona, Gerardo Di Lella, grande compositore, direttore d'orchestra e la stupenda, bravissima Amy Stewart. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Anatomy. Bentornati signori miei, sono le 15.00 e 14 secondi, sempre in compagnia dei miei amici Barahona che faranno da colonna sonora a questa ultima puntata prima del meglio di, che vi farà compagnia tutta l'estate, tutti i giorni. Yes. Sarà montata dai ragazzi del Business School qui di Radio 24, sarà una bellissima avventura che riprepererà ovviamente la terza edizione, come tutte le stagioni televisive delle fiction si rispettano. Arriviamo alla terza stagione, non ci hanno cancellato. Alla mia sinistra Gerardo Di Lella ed Amy Stewart. Parlavamo, Amy Stewart, anche con te di tutte queste avventure meravigliose, Canore ovviamente, sì, in Italia, quell'altra con Gianni Morandi, che è stato anche quello uno startup molto bello e importante. Importantissimo. Questo grazie, perché lì chi ti ha chiamato? Qui ti ha chiamato prima Gerardo Di Lella, lì ti ha chiamato prima Gianni, oppure hai chiamato tu Gianni? No, è stato organizzato dalla casa discografica. Sempre RCA, perché eravamo sempre nello stesso casa discografica. Così bisogna, questa è la vera lobby importante. Un grande, cioè, Sergio amici... Bardotti, che è veramente un'altra bella persona, che ha scritto il testo in italiano, sì, perché lo sai che era We've Got the Night di Kenny Rogers e Sheena Easton. Beh, me l'hai rubato tu, te lo stavo, sì, dicendo. Ah, scusa, scusa. No, no, no, va bene, hai detto tu, è inutile che io lo ripeta. Con la stessa pronuncia. Sì, come... è così. Com'è? Di cosa? Di Kenny Rogers, no, sì, Kenny, e Sheena Easton. E Sheena Easton. Il titolo originale era We've Got the Night. No? We've got tonight. Dilla Gerardo, we've got finta tonight. Tonight. Eccolo là. Ecco! Ha capito? A replicare sono capaci, sì, tutti. Allora, certo. Pure i bambini, mamma. Non è vero, pure a replicare bisogna saperlo fare. Bella Gerardo. Allora, ce l'ascoltiamo un momento di Gianni Morandi insieme ad Amy Stewart. Questa bellissima, grazie. Perché? Grazie perché anche lontano grazie perché, a chi devi dire grazie, Amy? Quanto tempo hai? Tutto il tempo che vuoi. Mamma perché mia, per ringraziare le persone. Sì, tante, tante. Dove hai cominciato tutta questa avventura? Fuori, non qui ovviamente, della mia vita artistica. Quando avevo 9 anni ho cominciato a ballare. Tu intanto sei nata ero a Washington. Una ballerina artistica, ero ballerina dalle 9 anni, per 17 anni ero una ballerina professionista. E poi ho frequentato la Scuola delle Belle Arti di Washington, dove mi hanno insegnato a ballare, cantare, esatto, scenografia, tutto, come si fa tutto in America, come si fanno in America. Si fa in America. Da lì a Broadway, da Broadway al West End, dal West End. Sei stata a Broadway? Hai lavorato? Eh sì. Dai. Sì. Che bella sì, cosa. Angela. Mica come noi. Che invece siamo allo Sfinisterio. Senti, ma quello è bellissimo. Il teatro, non voglio prendere un giro, è bellissimo. Dai, il nome è difficile. No, però dici, dove sei stata? Nel West End. Hai capito? Ti viene da dire, dove sei? A Broadway, West End. Ti viene da dire, me coglioni. Cioè, ti viene da dirlo, lo pensi. Capito? Era una meraviglia, è stata a Broadway. Cioè, questi cantano, ballano. Sì, ma recitano. Per arrivare a Broadway, sì, devi all'aereo. Devi lavorare. No, sì, devi lavorare tanto. Devi sì, studiare tanto. E non è una cosa, non è un reality show. No. È un'altra cosa. Dillo a questo periodo storico che si vive di talent e di reality, dove le scorciatoie sono tante, sì, e durano sì, poco poi, anche se vinci. Questo è il discorso. Non rimani lì sopra quella, sì, a dirigere un'orchestra, mm-hmm, perché ha fatto un talent. Insomma, è difficile. No. Rimanerci poi, sì, sì. Gerardo, dopo Amy Stewart, ma chi devi chiamare? C'è Barry White, cioè, chi chiami dopo Amy Stewart? Io spero con Amy di fare anche altre cose in futuro. A voglia, i progetti. Ce ne abbiamo già. Abbiamo tanti, insomma, progetti. Ci sono già le carte. Anche perché lei veramente è polivalente, nel sì, senso che parliamo cose di persone che sanno stare su un palcoscenico, non soltanto con un microfono. Lo devo dire, forse sul palcoscenico una persona che riesce a stare come lei è difficile trovarla. Perché grande balla, eleganza, balla. Riesce a parlare benissimo, canta, cioè, la scena è sua. È difficile. Quando ogni persona che le sta a fianco poi viene subito messa, viene detto quello ti sfido. Io ho visto Geraldo con la L, il lato B è una cosa strepitosa, mi dicono. Beh, possiamo parlare d'altro, perché possiamo lui ha aspetta no, lui Andy, ha questo smoking di capito, una bellezza sicuramente fatta a mano, no? Sì, con le mutande rinforzate di dietro, con dai, i pantaloni per favore, con questi pantaloni che sono cuciti proprio sì, ad ogni centimetro perfettamente, proprio di centimetro, e tutte parliamo, le donne in sala tutte beh, intorno a me, mamma mia che fisico, ma questo si è disegnato così, sarà una no, bella lotta la fra sarta, chi tiene la scena, sì, guarda ci sono tu davanti, io e lui, lui da dietro, vabbè dai, no, vabbè, no. No, il lato B di Gerardo mi sfugge. Cioè, non è come dice, ho visto dirigere Herbert von Karajan, non sai che culo che c'aveva. Non no, è così. No, non sto parlando del sedere, di che? Sto di spalle, parlando del fisico intero. Amore, non parlo basta... come un uomo no, che parla solamente del sedere. Guarda che basta. No, no Amy, scusami, no. Basta un buon sarto lì, tesoro, perdonami. Che basta che fa le spalle rinforzate un po' più larghe e stretto in vita. Ma se ma dai, mo adesso di tutto sa di Gerardo, sì, che ma bravo. Produce, che... Ma è un bravissimo direttore d'orchestra. Quello non lo metto in dubbio, così? Ma tu mi stai a disegnare il fisico di Schwarzenegger mentre dirige l'orchestra, non è così. Cioè, Brad Pitt. Schwarzenegger. Vabbè, Brad Pitt che dirige l'orchestra è diventato, no, Gerardo. Però è vero che quando si gira, la gente però lì. Ma c'ha pensa dei dubbi. A quante persone vengono allo spettacolo per vedere per lui vedere le spalle. No, vabbè, no, non ci posso credere. Oh, meno male, ragazzi, che alla Versiliana il 15 luglio, signori, ve pago il biglietto io. Andate e raccontate, fate delle foto a Gerardo di spalle. Vai, passiamo Amy Stewart da davanti, che insomma è una cosa invece da non perdere. La gente preferisce, dice: sono a vedere Gerardo di Lella. Ma scusa, ma non sentivi quasi niente? Sì, ma vedevo. Cioè, non si può. Cioè, Gloria Gaynor se n'è andata, no, prima. No, ma bello, perché nella musica di discoteca quello è altro, ti devi divertire. Ma perché lui balla mentre dirige in quei ma pezzi. Ma certo, come è non può? È questo che voleva probabilmente... Sì, ah, ecco. Per non si muove. Puoi, sì, certo. Cioè, sculetta mentre dirige l'orchestra. No, vabbè. Lui balla, non sculetta. Sculetta? Che cos'è sculetta? Sculetta muove il sederino, sculetta. No, lui... Wolfman sculetta. Wolfman sculetta. Move your ass. Come si dice in inglese? Hai detto? L'ho detto. Ma io, questa è una frase del film che ho doppiato. Meno male che l'hai detto in Italia, sta sì, cosa. Sì, vabbè, insomma, cioè, capito, questa è la cosa. Signora Amy Stewart, proprio per dare forza a tutto questo, Gerardo, vabbè, ormai lui, la sua vittoria è con il corpo, insomma, si sa. Gerardo ha imposto se stesso, no, perché è un forte, sex symbol. Il suo forte è la musica, l'arrangiamento, i musicisti, sì, i solisti. E quello, guarda, io dicevo da un'ora. Non puoi capire la bellezza. No, della... Ma io lo conosco, fino lì ci arrivavo. Conosci? Sì, tu l'hai sdoganato da un'altra parte, capito? Io parlavo di lui come grande professionista, tu mi hai parlato di un grande sex symbol. No! Non ci siamo trovati d'accordo. No, io parlo di lui come un grande professionista, Amy. Non è che ho detto, non sapete Miss Stewart. Sì, che bella, è ovvio, sei bellissima. Però non è che ho puntato l'intervista su, ma che bel trucco che hai, questo capello bianco biondo. Capito? Sulla tua bravura. Gerardo lo sapevo che era bravo, ma mi era sfuggito il lato B. Ma meno male che ti è sfuggito. Ma meno male, infatti sono contento. Io infatti direi di andare avanti con Amy Stewart raccontando a proposito della sua politici. Perché mi avventuro in certe parole? Ci vuole vino. Sì, veramente. Mi avventuro in parole difficili che non uso mai e mi impicco. Poliedricità. Proprio anche questo, grandissimo esponente, con Ennio Morricone, una colonna sonora bellissima, sì, del Segreto del Sahara. Il maestro. Eccolo qui, Sahara Dream, Amy Stewart. Senti pure il caldo del deserto. Sentilo. Questi giorni ci sta, Nessuno scrive come il maestro Morricone. No, il maestro è nessuno, di una simpatia, di una nessuno, bravura. Nessuno. Che bravo. Com'è stato quell'incontro? Anche lì RCA, musica, edizione? Lì all'RCA, e devo dire che era un momento decisivo della mia carriera, perché io avevo una paura che non puoi immaginare. Posso immaginarla un minimo. Mamma mia, mi ha chiamato nello studio, persona lì di grande forum, al forum con dei Franco Patrignani. Grande Franco, che salutiamo anche lui ovunque sia. Ennio stava lì con Franco, così, e io stavo nello studio come lì, stavo cercando, è partita la musica, tutto l'orchestra. E la voce era piccola come un granello di sabbia, perché ero talmente emozionato, non usciva niente. Ah, per cui non è venuta bene il primo impatto. E a un certo punto Franco ha visto che ero in difficoltà, e ha detto: Amy, che c'è, amore? Vuoi un tè? Vuoi un tisana? Vuoi un bicchiere d'acqua? Che possiamo fare? E io, sì, Amy, che cosa c'è? Che cosa c'è? Che possiamo fare? Ma che, dimmi. Che cambiare musico, cambiare cantante. Io l'ho guardato, io ho detto: perdonami, maestro, ma io non riesco a cantare con te che mi guardi. Non esci niente, non ce la faccio. Ti è capitata la stessa cosa a Gerardo, per questo ha messo le spalle. Silenzio, perché tutti i musicisti erano così. Oddio. Certo. Ennio mi ha guardato e ha detto: va bene, io vado a casa. Quando è finito, chiamami. No. Si è alzato, lui è così. E si è andata via. È uno pratico. Sì, lui è molto pratico. Ha capito subito il mio disagio, il mio difficoltà. Che non era l'orchestra, i 100 elementi, era lui. Me ne vado, quando hai finito, chiamami. Lui è andato via, è andato a casa, in un'ora, mm-hmm. Ho finito, ho chiamato e detto: maestro, ho finito, puoi tornare? posso tornare? sì, maestro, torna, fatto. Ennio Morricone è una persona di una disponibilità, come tutti i grandi, sì. I grandi sono così, sì, sono sì, semplici. Sì, sì. E lui è stato sempre veramente una persona molto semplice. Lo stesso cosa ha fatto con me Franco Patrignani, che dovevo cantare la canzone di Pocahontas, che avevo doppiato lui, Joe Smith. Uh-huh. Alla fine della canzone mi ha detto: tu non sei Pocahontas, tu sei Pocacantas. Questo era il grande Franco. Adesso ci sono i figli che sono lì, che saluto, Marco Patrignani, sì. E grande Fabio, che sono bravissimi. Portano avanti un'eredità paterna molto molto molto importante. Molto importante. Eh sì, per cui anche questo, Amy, devi scrivere un musical, qualcosa con Amy. Piano, sicuramente possiamo fare tante cose. Ma adesso... Barona riesco a sistemarli lì, oppure mi devo portare dietro per tutta la vita. Ma Barona fanno tantissime cose, li vedo sempre fortissimi, ogni tanto. No, sono sempre forti. Poi sì. Posso dire una cosa, non dico che li ho cresciuti, perché siamo cresciuti insieme, sì, voglio dire, noi ci conosciamo da 20 anni quasi. E abbiamo fatto anche delle cose insieme. Lui era proprio piccolissimo, era appena entrato nel gruppo d'Elio. Il poro d'Elio. Grazie a Demi su tanti messaggi di complimenti. Grazie a Demi Stuart per la grande testimonianza. Si conosce nell'eccellenza come artista, è stato bello conoscere anche un po' della grandezza della persona. Tra l'altro, questi sono i messaggi di Radio 24. Io ricordo Amy in scena con un omaggio a Billie Holiday, bellissimo. Ah sì, era sì. Un musical Sistina. Fantastico. Sì, ah sì, hai fatto anche Don't Explain, cantata di Billie Holiday, che io credo che sia la canzone più bella di Billie Holiday. Ci sono da guarda lei. Ce ne sono tanti. Una meraviglia. Ah, tu la stai facendo. Ah, la stai cercando di accompagnare. Oddio. Pino, oddio, mi sembra troppo per me. I don't know why, but I'm feeling so sad. Siamo in diretta, Yes. I long to try something I never had no kissing. Oh, but we've been missing love a man away. Can you be? Beh, ragazzi. Cioè, vi siete guardati un attimo. Così lo scrivo nel curriculum. Ci provo pure io. Esatto, ho accompagnato le missioni. Io pure ho accompagnata prima, prende un caffè, ma più di questo. Vabbè. Restate uno dei tanti bei messaggi. Cara Amy, tu sei un'artista americana, che ne pensi del doppiaggio? Questo ne parliamo dopo, così. Non c'è Renato Zero? C'è più tardi con Mariella Nava. Tranquilli, ci stanno tutti, complimenti. Vabbè, arrivano tante cose. Va bene, a tra pochissimo con Voice Anatomy, Amy Stewart, Gerardo Di Lella e i Barona e Pinuccio vostro. A tra poco. Voice Voice Anatomy. Beh, voi lo sapete, signori miei, sono le 15, 16, 25 secondi in diretta. Baraonna, Gerardo Di Lella e Amy Stewart. Prima io ho chiesto a Don Explain e lui ha cominciato ad accennare. Don Explain, Vito Caporale, è? Lei ha cantato un'altra canzone, ma se sono trovati strada facendo ugualmente, non si è accorto nessuno e se sono chiesti scusa. Cioè, ma di che? Cioè, se attacco io devo chiedere scusa. Dai, attacchiamo l'inizio di Buonasera, Buonasera, che io non so che nota faccio. Buonas, ecco. Vai. Buonasera, buonasera. Che piacere che mi fa. È troppo alto. Fa una... No, fa la più bassa. Buonasera, buonasera. Ecco. Che piacere che mi fa ritrovarmi di nuovo con voi. Sembra un po' una vecchia zia. Non vedete che stasera c'è Mariella Nava che si è affacciata alla finestra. Mariella, vuoi entrare intanto a stare vicino a me con la sedia? Se no, come vuoi, tanto fra... No, vieni, vieni. Capito com'è la questione? Sì. Prendete una sedia per Mariella Nava, che oggi è veramente piatto ricco micificco, come dicevano. Ciao Mariella! Ti presento Gerardo Di Lella. Ho capito! Fatemi fare il padrone ciao di casa. Ciao baby! Prendi una sedia. Esce tutto Washington DC, grazie Alessia Navarro che si presta, oltre ad essere capo progetto, anche a capo architetto, portando una sedia. Mariella. Una cuffia. Una cuffia anche per Mariella. Sì. Vabbè, per adesso qua questo blocco magari. Una cuffia per Mariella pagando anche una cifra extra, ce l'abbiamo. Beh, siamo tanti, Dai, beh, questa qui intanto. Sì, sì, no. Va ma bene. Amici, però. Ecco, Mariella, sì, abbiamo lo stesso microfono, io lavo i denti, fortunatamente. Hai detto che non è, sei bellissima, scusa. Ma che? Io sono sudatissima intanto. Non ci abbracciamo. Fa un caldo anche qui. Sì, sì, è Roma. Sono 38 certo. gradi. Signori Mariella Nava, stavamo percorrendo un po' di carriere, un po' di divertimenti, si sono trovati al volo su una canzone che non era quella, però l'hanno cantata ugualmente. Don Explain, te la ricordi com'è? Sì. The first line non mi ricordo di Don Explain. The first line. And now... Ah, ok. Ok, ce l'ha. I'm glad you're back, don't explain. È quello, no? Sì, è quella, è vai. È la prima parola che non mi ricordo. Bribed. Why? But I'm feeling so sad. No, questa è Loverman. Oddio, Don Explain, come va Don Explain? Tu pensa se questo attacca, no, con Voodoo e tu attacchi... Hush now. Ecco, there you go, a gare. Okay, vuol dire ce l'ho. Capito, Mariella? Ce l'ho, a gare. Ecco il caffè, Mariella. Hush now. Hush now. Don't explain. Yeah. I know you always came. To love you, for I'm completely yours. Try to hear folks chatter, and I know you cheat, but right or wrong, don't matter when you're with me, sweet. Hush, don't explain. Yeah, hey. Joy and pain, I'm glad you're back. Don't explain. Questa la metto nel curriculum. Ragazzi, che bello. Ecco, questi sono dei live bootleg, quelli da rubare. Se mi stacchi il povera Mariella Nava si sta veramente uccidendo, perché la cuffia gliel'abbiamo messa a piazzare della radio praticamente. Ecco, ecco, cioè, sta prendendo un caffè, non gli è andato né per l'anima né per il corpo. Non la faccio né parlare né cantare. T'ho fatto entrare un po' prima, però poi anche come vuoi, no, Mariella. No, ma io sto godendo. Sì, vicino a me, ma perché mi sei vicino, pensi? Per tutto. È vero che anche la mia vicinanza. Certo, soprattutto. Si sente la falsità nella voce, insomma, si capisce, no, quando uno si appoggia su una parola sbagliata. Ma hanno già massacrato. Tu Gerardo Di Lella l'hai visto mai dirigere? Perché mi ha detto, Mistiore, che la cosa più bella è vederlo di spalle. No, io parlavo di lui a livello artisticamente alto, che Gerardo è veramente bravo, grande io, direttore d'orchestra. Sì. E lei mi ha parlato della sua sensualità quando dirige. Ho detto entrando che tutti quanti in qualche modo ci siamo incontrati per, sì. Sì, per Emi ho scritto una canzone tempo fa, sì, per i primi, e che non ricordo poi neanche io, niente male, però come le storie porto lunghe, che poi diventa... le storie lunghe, esatto, che poi lei ha tradotto. La ricordi a tua? La riconosci? Esatto. E quando sentirai questo segnale, sì, lascia, sì, stare. Sì, esatto. Esatto. Vabbè, grazie, tu, sì, come la gente dice. Mariella che scrive migliaia di canzoni. Hai capito? Non è fermarsi un rapporto. Quello. Ma se non saluti la gente per la quale lavori, cioè, non è così carino. Cioè, tu qua hanno scritto, vabbè, uno spettacolo per te, come ti chiami? Non è così. No, la canzone che lei scrive, canzone, migliaia di canzoni. E ne scrivesse una, allora, di meno. Per ricordare quella. Allora, era Le storie lunghe nella versione scritta da me in italiano. Sì. Ma poi lei Woman Brace. Esatto, la tradusse in Woman Brace. Uguale. Vuol dire Le storie lunghe. Un caloroso abbraccio. Esatto. Le storie lunghe. Mm-hmm. Un caloroso abbraccio. Mm-hmm. Sarebbe, sì, come noi quando famo un titolo del film. Se mi lasci di cancello, che cambiano. Qualcuno ha chiesto, tu sei americana, il doppiaggio italiano, lo apprezzi il doppiaggio dei film? Tu li vedi in italiano o in inglese? Ma sai, il problema del, per me, dei doppiaggi degli italiani, ci vuole più doppiatori. Sì. Perché se no si sente lo stesso voce che fa troppi personaggi. Perché guardi me, io perde... No, io perché stiamo parlando, ah, certo, stiamo parlando. Scusami. E allora per quello perde molto quando perché tu senti nella diversa, lingua originale. Certo. Quando senti nella la lingua originale ti rendi conto che tante volte è lo stesso attore che fa troppi altri attori con la stessa attori voce e non riesce a cambiare la modulare la voce nel modo giusto. Diciamo che quelli bravi riescono. Grazie che mi stai guardando. Capisci a me. Grazie, grazie, meno male. No, io cerco sempre di cambiare, però è vero, ecco, una grande personalità come Amendola faceva Stallone, De Niro e Hoffman, quella voce ci stava benissimo, anche se era diversa dal solito. Lui aveva grande personalità, però devo dire, sì, che Giancarlo Giannini su Al Pacino, sono copia e incolla. Sì. Sì, sì. Questo sull'inglese, poi sui film francesi, tedeschi, spagnoli, eccetera, ci sta il fatto, insomma, tu li vedi in inglese in originale perché sei nata a Washington, diciamo. Sì. Anche Gerardo è nato. Anche Gerardo è nato, sì, a Washington. Nessuno è perfetto. Tu dove sei nata? Nessuno tu a Torino? Dove sei? Io a Taranto. A Taranto, sì, pugliese. Sì, sono pugliese. E tu lo parli il pugliese, Emi? No. Non mi dispiace. Parlo orecchiette. Parlo orecchiette. Orecchiettese. Cioè, parlo orecchiette. Come si parla orecchiette? Gerardo è di House Light. House Light. House Light. Casa Bianca. Casa Luce. Un casa Luce. Luce. House Light. Ah, ma siete tutti anche voi i baroni? No, no. No, di House Light. Siete noi siamo salernitani. Salernitani. Qui c'è anche una grande divisione. A me interessa molto. L'America ha queste inflessioni diverse da metro a metro, anche lì, da regione a regione. Tu riesci a parlare il, sì, dialetto, cioè, texano? Dell'Iowa, oddio, del Tennessee, no, è difficile. Solo orecchiette, anche lì. Marona, che mi regalate? No. Che possiamo fare? Non so, cosa... un minuetto? Anche se magari... poi, cioè... Che poi è proprio quando ci siamo incontrati anche con Mariella. Con Mariella. Abbiamo fatto un omaggio a Mia Martini. Premio Mia Martini. Ci sto sempre come il prezzemolo. Scritte migliaia di persone. Orecchiette con prezzemolo. Orecchiette. Allora, Mariella Nava, scrivi un pezzo. Orecchiette. Beremi, magari. Un pezzettino. Vai. E vieni a casa mia quando vuoi. Nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi. Tanto sai che quassù, male che ti vada, avrai tutta me se ti andrà per una notte. Na na na, minuetto. Sei la gente strana. La mia mente non si ferma mai. Si odia e poi si ama. Non so l'amore vero che sorriso ha. Pensieri vanno e vengono, la vita è così. Oggi è poesanatomi davvero. Cioè loro proprio già quando ti dicono ciao ti incontro già armonizzati. Sono armonizzati. Sono nati così. Esatto, la mamma quando piangiamo c'è un we, we, we, we, we, we. Già armonizzati, a mille voci. Sono così. Non date corda a Pino su questa cosa. Io negli spettacoli li dico sempre, hanno pianto l'orchestra, sbagliate durante, sembra che abbiamo messo un disco. Cioè lo fanno anche al circo, fanno finta di non farcela subito, a fare il terzo salto mortale. No, sembra un disco, anche io mi macchio quando vivo, mi sembro troppo bello, dai fastidio. Perché sta risata idiota superficiale quando uno invece credo, ma io... sei truccato così, non sei no, così. A me mi disegnano certamente. Stavo parlando, mi ha fatto una strada pazzesca, bellissima, poi sempre polivalente, come hai detto tu, in America li abituano bene, ti fanno cantare, recitare, danzare, tutto, tutto, e questo lo metti in pratica, però devi farlo un bel musical adesso. Ma un bel musical, l'ho appena finito uno l'anno scorso, la Via del Successo, Dream Sisters, La Via del Successo, che era tutto un musical sulla falsa riga del Diana Ross and the Supremes, ma veramente era una scusa per fare sì. Un spettacolo di musica anni 60 che veramente che arrivava qua, pum, perché certo, era fortissimo. Senza sedie bisogna fare quei musical, però, senza sedie. Io lo dissi, infatti a la gente Gamer, stavano sotto il palco. Ma sì. Stavano sotto il palco. Anche no, qui, ma adesso lei c'era al concerto. Adesso sì, adesso ballavano no. Tutti. Io e Geraldo invece di fare di tornare al musical adesso veramente io e Geraldo stiamo pensando a come vogliamo sfruttare le stagioni autunno e l'inverno in teatro. Ma sì, fallo. Volevo anche la terza dimensione, cioè nel senso infatti, sì, il concerto ok, la canzone ok, la bella orchestra sì, ci vuole quella terza sì, dimensione. Potete farlo, sviluppa, lo puoi fare con questa gente. Sviluppare. Sì, coinvolgere, perché è già coinvolta. Serve sì. Quell'attimo spettacolo, visto che anche è un entertainment, lei insomma è una showgirl. Grandissima. E allora approfittane. Io se vuoi a Roma te lo presento, l'inizio. Come scanso. Si è impegnato. No, io lo faccio. Sì. Poi arriva lei e io posso farli, 5 minuti con lei a cantare un paio di pezzi americani. Cioè, io e te, Sarah Vaughan, sta gente qui, insomma. Io. Ti piace? Sì, io un po'. Mi muovo su Ella Fitzgerald. È un po' su sì, secondo sì. Me ti presta meglio Ella Fitzgerald. Sì, se mi presta meglio. Quando fai scatti, no? I scatti. Quando faccio i scatti, sì. Quando faccio i scatti, assomiglio più a Pietro Mennea. Questo, esatto. Quelle per te. Hai detto che è brutto, l'hai detto in un modo brutto. Andiamo in pubblicità tra pochissimo con tutta questa masnada di ospiti straordinari. Voice Anatomy. Bentornati signori, ci stavamo mettendo d'accordo su come organizzare, visto che siamo tutti insieme, credo che sia la cosa più bella del mondo. All'inizio questa trasmissione 2 stagioni fa nasceva attore doppiatore, poi il vocologo, poi l'ipnotista, poi l'ipno eccetera, c'era qualsiasi cosa come c'è adesso, però questa fusione, a parte che oggi è proprio un minimo comune multiplo, cioè è la musica, la voce, sì. Eccola qua, a parte Gerardo che è soltanto un corpo. Beh. Ma perché? Ma io non dovevo no. Dire niente, perché no, adesso perdonami. Sei come un chiodo. Per chi sei come no. Un chiodo? Ma che cos'è? Batti per come chi, un chiodo. Sì, perché vabbè, no, dai. Questo per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, Amy Stewart prima ha raccontato di questo ma bellissimo ancora? Concerto che faranno il 15 luglio ecco. Alla Versiliana e poi allo Sferisterio. Allo Sferisterio, però lei parla della grande bravura di Gerardo. E poi è una grande fisicità, insomma, io sono rimasto un po' scioccato di questo. Insomma, io anch'io devo il mio successo al fatto che io rappresento il sex symbol di questa nazione, però non lo urlo, Mariella. È vero. Tu hai scritto delle canzoni anche per me, ma non ti ricordi? No, l'ho fatto. Tu ma... l'hai fatto sicuro? Sicuro. Una canzone per me l'hai scritta. Tu eri in TV, io ti guardavo e scrivevi. Scritto, sì, e io mi ho cantato. Ispirato, sì. T'ho ispirato, è lì che hai smesso un po' di scrivere. Pensa la depressione, il blocco dello scrittore gli è preso lì a Mariella. No, no. Noi parleremo ancora con Mariella. Tu adesso hai uscito un ultimo LP, a me piace chiamarlo LP ancora. LP, sì. Long sì. Mi spiace, ma io non sono digitale, sono analogico. Sì, ancora. Sì, analogico. Non ha fatto l'EP di epoca? Lo farò. Lo facciamo il vinile? Lo faccio perché mi è stato proprio chiesto dai miei fans, hanno detto no, no, tu devi fare il vinile. Ma è che lo rimane, si tocca, il vinile è sesso pure, la musica. Beh, cioè... torna sempre, c'è un po' un... Insomma, c'è un po' di problemi, è vero, un po' di problemi ci sono. Problemi, no, cioè, dobbiamo psicanalizzare. No, non c'è bisogno, sono problemi, sono reali, se non c'è mia moglie puoi chiedere a lei. No? Vabbè. Però no, è carne perché secondo me la vita, la comunicazione di un artista è carnale. È carnale, anche ovviamente interiore, eccetera, ma l'impatto, e non è che devi essere bello, devi tracimare quella forza sessuale che non è significa quando sesso. Quando si dice mi fa sangue, sì, cosa... no, ma c'è capito, cioè, non è che Al Pacino dice vedi, oddio quanto è bello, no, ma ti piace, cioè, okay. Lo vorresti possedere in quel momento, ma a livello non fisico, a livello proprio, ma che mi guarda così, Stuart? Parlavamo di vinile, eh? Sì, parlavamo di vinile. Mi sono lasciato andare un po' troppo. Dal vinile siamo arrivati. Abbiamo esagerato, siamo diventati estremi. Sì, siamo diventati scambisti. All'improvviso, da un locale per scambisti è diventato dal vinile. Comunque tu farai il vinile di epoca, ma sì, non ha nulla a che vedere col lo fatto che tu debba fare l'amore quel giorno. Troverò dei maniaci sessuali. Esatto, che lo comprano. La prossima canzone di Marianna Nava è quel vizioso, sì. E la dedicherà totalmente a me e al mio vinile, il rapporto col vinile, perché è il buco piccolo. Va bene, allora. Allora, voi due vi unisce una cosa molto bella, leggevo qui che nel 2003 hai fatto una campagna con l'UNICEF, Infanzia rubata, infanzia violata, tu Emi. Sì. Mentre la mia amica, nostra amica, la grande Mariella Nava, leggo da qualche parte che era finalista per quanto riguarda una canzone contro la violenza alle donne. In nome di ogni donna. In nome di ogni donna. Con Amnesty. Con Amnesty, per cui vi ha unito questo percorso in momenti diversi, tu nel 2003, tu invece nel 2000, più avanzato, 2013. Sì. Poi lo leggo nella tua biografia. Io volevo leggerlo, questo In nome di ogni donna. Vai. Ci provo? Come no? Che me l'hanno dato adesso e non l'ho preparato, come tutti gli attori doppiatori, penso di poter fare tutto all'impronta. Che è anche difficile. Che serve una voce, una musica un po' più forte delle solite magari, però quelle ci abbiamo. Vai, proviamo, anche perché so di che parla, ma non l'ho letta. Conosco la canzone. Questa qui come nasce? È una cosa tipo interrogatorio, no? Questa sì, cosa nei confronti messa, di una donna. Il momento della messa verbale, quindi con le domande, no? Ok. Mi dica il nome. Ok. Mi dica il nome ed il cognome, tutte le generalità. La residenza, abbia pazienza. Si segga un attimo qua. Vuole qualcosa? Un sorso d'acqua? Ritrovi lucidità. Riprenda fiato e pensi bene ad ogni parola che dirà. Da quanto tempo? E quanti figli? Lui che lavoro fa? Spesso ubriaco, certo, è un dettaglio, ma che rilievo non ha. E perché adesso? Quando ha deciso? Perdoni la curiosità. Ha testimoni o è qui da sola? Certa di dire la verità? La verità! In nome dell'amore e della forza che mi ha portata fin qua, in nome del coraggio di questa storia che più confine non ha, in nome della ragione e di ogni angolo di libertà, in nome di ogni donna che ancora grida e ancora griderà, mi creda. Per carità. Mi dica il fatto ed il contesto con più serenità. Descriva meglio, scusi se insisto, serve puntualità. Mi mostri pure le prove, i segni e la formalità. Che cosa intende lei per abusi e quanti altri lividi ha? In nome dell'amore e della forza che mi ha spinta fin qua, in nome del coraggio e di questa storia che più confine non ha, in nome di un diritto e di ogni briciolo di libertà, in nome di ogni donna che ancora nasce e ancora nascerà. Mi aiuti per carità. In nome della ragione, di ogni angolo di libertà, in nome di ogni donna che è ancora viva e ancora vita vorrà, mi ascolti, per carità. Metta una firma qua. Wow. Beh, ma questa è... No, vabbè, sai... È scritta... Quando le cose sono scritte bene, puoi anche leggerle lì sul momento. Sai, non... trattare la racconti? Trattare questo tema, insomma, in molte donne l'abbiamo fatto, no? Raccontarci. Però questo punto di vista mai. Però questo è il momento focale, secondo me, in cui la donna ha già preso coraggio a due mani e ha detto sì, da domani cambio vita, quindi vado a denunciare. Però c'è un punto interrogativo che rimane ancora alto, perché sentiamo, almeno la cronaca ci racconta di storie che già erano state poste sotto denuncia e che però sono finite lo stesso male. Sì, Sì, è vero, ne conosco anche alcuni che non hanno potuto denunciare perché era stato superato il termine del ricovero all'ospedale, eccetera, eccetera. Insomma, sì, quindi, sono delle cose, anche la paura. Di, poi, quindi ancora non è risolutiva. No, no, perché adesso denunci quando ormai ha ucciso. Esatto. E dici, ma ve l'avevo detto. No, se dovesse arrivare quel fantasma, dice, ve l'avevo detto. Certo, alcuni sono 10 anni che ve lo dico. Alcuni femminicidi aspettano che succeda. Sì, no, dopo... Se, quando ci sono le indagini, no? Scoprono che c'erano già state, erano già state avanzate più di sevizie, eccetera, esatto. Denunce, eccetera. Esatto. Sì, magari non voglio additare questa la giustizia, eccetera, ci avranno anche tanti altri problemi. Certamente. Però certo, ci vuole il coraggio della donna, intanto. Che sì, però comunque io cerco di muovere questo è bello, questo verso è bello. Il coraggio le donne sì. Che ancora ne hanno paura o non sanno qual è la linea di confine, sai? Sì. Alcuni pensano che io so che alcune donne pensano che sia normale avere un compagno che mena. Sì, purtroppo sì. Sì, no, mia moglie non la pensa così, perché ne mena lei. Comunque io posso fare il contrario. Lei sorride dall'altra parte. Devo dire che fino adesso uno schiaffo ho preso, ma mi ha dato lei. Per cui non so cosa posso fare. Se esatto, posso girare anche... al contrario questa canzone. Può si può fare, utile, vero? Perché ci sono anche dei casi di violenza psicologica. Anche, non anche so, quelli fa, anche sì, quelli certo. Fa. Perché mi impone... Avanzati da parte di tanti uomini. Come? Esatto, esatto. Io mi sento molto donna. Questo lato allora... No, no, non voglio ovviamente scherzare su un argomento così importante, ma è già molto importante. Gerardo, tu con Mariella contatti? Ancora mai avuto il piacere, spero presto, perché è un'artista, se la seguo da lontano, da tanto tempo, quindi conosco bene attraverso questo è stalkeraggio musicale, puoi denunciarlo, no. Sai. Ha fatto canzoni bellissime, quindi grazie. Voglio dire... Magari facciamo una cosa insieme di nuovo con Amy. Poi suona bene il pianoforte, cosa? Sì, cosa lei è strepitosa. Sì. Sì. Infatti adesso dopo la mettiamo al pianoforte. Violentemente. Sì. Appunto. Beh, che mi regalate per dedicarlo a ancora? Facciamo a quella. Allora vogliamo fare la telefonata al nostro personaggio misterioso. Allora, aspettiamo 2 minuti. Proviamo a telefonare alla persona che sapete che io ho già ovviamente anticipato sul nostro sito Facebook e vi ringrazio per essere sempre così tanti e così attenti. E telefoniamo e fra 2 minuti ci mettiamo in contatto con lui e magari facciamo ascoltare la canzone che Mariella ha scritto per questo grande personaggio che è Renato Zero. Insomma, io credo che poi per tutti si intitola Vecchio, quella non è Spalle al muro. Era l'originale titolo. È come Volare. È come esatto. Volare, dici come si intitola Volare? No, nel blu dipinto di blu, è non vero. Si intitola Volare. Adesso ne ha approfittato, come si chiama, Rovazzi? Sì, sì. è rimasto non, libero volare. Sì, non, quella, vabbè, non no comment, però vabbè, ci sta anche quello, vabbè. Ci sta nello spazio profondo. Vogliamo regalare... Un omaggio a Gerardo, una vabbè, cosa napoletana, c'è. Ci sta tutta. Ci sta. Certo, vogliono fare il prossimo lavoro con te, Gerardo, sei capito. No, per la verità questa l'abbiamo già fatta con Gerardo tanti anni fa. Avete lavorato, no, siete peggio di Mariella Nava, santo Dio, avete lavorato con tutti. Vai. Voglio un fuite con marzo della spezzata fuite. Ma bene ne ca, ma bene ne ca. Francis, spagnolo brigata, sta povera gente non può fare niente. Si vede ne ca, si vede ne ca. Ricordi Gerardo? No, no, sono io il pianoforte. Avete avuto una vita in comune tutti quanti. Sì, qui. Sì, sì. Ce io con loro sì. Tante volte. Sì. Sì, ma allora, sì. Avete già lavorato insieme? Non sperate sì, che vi possa. Ma questi hanno lavorato con tutti, eh? Sì, no, lavorano con me per cui hanno finito. Cioè, uno che arriva a suonare con te ha suonato con tutti. È finito, però manchiamo. Io e te non abbiamo ancora fatto una cosa. Ci manca solo questa esperienza. Ma sì. Dopo quello che hai detto sul fatto che da dietro quella no, posso benissimo farne a meno. È stato di Stuart. Hai saltato no, la tua ma... ma guarda, no, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, a posteriori ne riparleremo. Eccolo qua, quest'altro pure. Va bene. Allora, signori, tra pochissimo il blocco lungo del GR non è questo, è quello dopo, vero? Va bene, a tra pochissimo Voice Anatomy con tutta questa masnada di grandissimi professionisti. A tra poco. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Voice Voice Anatomy. Bentornati signori miei, come promesso abbiamo un ospite, ma prima di farlo ascoltare, che ha qualcosa a che vedere con tutti noi, ma soprattutto con Mariella, anche nell'ultimo album, assolutamente grande collaborazione con Zeroschi. Però prima ce la ascoltiamo dalla sua, dalla voce dei Barahona, una prima strofa, un pezzettino, esatto. Poi attacchiamo quella vera scritta da Mariella Nave e poi ascolteremo la sua voce live che interverrà nella trasmissione. Roba di un minuto tutto questo, ovviamente. Spalle al muro quando gli anni sono fucili contro qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli. Spalle al muro quando gli anni son fucili contro qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio. Ovviamente non vuole essere questa la parola che vuole introdurre il nostro ospite al telefono, ma io credo l'abbiamo interrotto dalle sue prove del prossimo tour importantissimo che è Zeroschi, che è Renato Zero. Pronto Renato? Cari, ecco tu. Come stanno? Stiamo bene, sono tutti, c'è Gerardo Di Lella, Amy Stewart, sì, Mariella Nava, i Barahona, mancavi solo tu Renato, ti ho interrotto per un... Ma io guarda, io ci sono anche attraverso un trascorso e una assiduità con i miei colleghi, perché sono uno di quelli che non disdegna, anzi favorisce sempre questa chiave di unità che produce bene, che fa bene alla musica italiana. Noi non siamo purtroppo figli delle jam session, che nascono invece in paesi freddi, anglosassoni o statunitensi, dove è impensabile, eppure questi artisti hanno trovato la formula e la furbizia anche di mescolare i loro generi, dando anche al pubblico questa sensazione di universalità. Io lo faccio attraverso anche questi connubi, perché canto Mariella come canto Bigazzi, come canto tanti autori, e lo stesso Bindi e tanti altri, che mi hanno dato sempre molto, e credo che nella mia umiltà ci stia molto bene questo rapportarsi a loro, perché da loro imparo e da loro sono riuscito a raggiungere poi questo obiettivo di avere questa complicità di un'orchestra sinfonica, che Amy Stewart come Mariella sanno benissimo la difficoltà di poter in qualche modo adeguarsi a questa grande sonorità, questa grande e immensa pagina musicale che per la quale ci vuole veramente molta, molta attenzione, molta discrezione anche, perché tutti questi strumenti insieme fanno veramente un piano sonoro talmente gigante, talmente meraviglioso, che inserirci si bisogna proprio andare sulle punte come la Fracci. Ride, ecco, è tornato rido, Renato all'improvviso. Rido perché se ci fosse Vanariello avrebbe detto: c'è una parola sola, sinergia. Ecco, grande ironia, Renato ha questa grande forza che è pazzesca. Quanto manca poco a Zeroschi, Renato? Manca poco, guarda, ti dico la verità, che gestione. È una grande sofferenza, non tanto la messa a punto di questo itinerario, che è anche di recitazione, anche di coreografie, eccetera, ma la difficoltà è che quando arriverà questo primo di luglio, sì, sarà il giorno della liberazione, perché avremo finalmente da in parte del pubblico no, questa sensazione di aver fatto bene quello che abbiamo fatto. Quindi diciamo che gli allestimenti e le prove sono sempre il banco più specifico, ma anche quello più oneroso, perché già da qui devi sentire l'odore e la fragranza, certo, di un, non dico di un successo, ma dell'onestà, di un trattamento artistico che possa in qualche modo anche conferirci quel trasferimento, no, di quote, perché noi artisti dobbiamo crescere. Io ho 67 anni, ma credo di avere ancora talmente tanto da imparare, che questo passaggio di Zerowski mi consente in qualche misura anche di andare a posizionarmi evidentemente in uno stadio un pochino più alto. Lo sai che c'è, Renato, che tu, la cosa bella è che tu sei un esploratore curioso ancora, e questa è la cosa, la grande, sì, forza, sì, che tu hai, nel senso che ti rimetti in gioco ogni volta che ricominci un'avventura. Questa avventura di Zerowski, che conosco da vicino per motivi che tu sai, eccetera, è splendida, e te l'ho detto dal primo giorno. Rimettersi in discussione non soltanto con 70 elementi di orchestra e 30 di coro, ma con una struttura drammaturgica importante che racconti delle storie, che sia fra il musical, fra un romanzo, fra una fiction, è un po' tutto questo Zerowski. Credo che sia il lavoro più ambizioso che hai fatto finora, non trovi? Io devo dire, sono stato anche un pochino spinto verso questa riva, perché la musica pop sta soffrendo di una anemia estremamente dolorosa, perché vediamo che la melodia è l'ultimo praticamente ingrediente al quale si pensa nelle produzioni ultime. Si fa molto scalpore con le ritmiche, con i loop, con un linguaggio anche molto verbale e niente affatto musicale, secondo me. Io sono assolutamente aperto, non mi chiamerei Renato Zero, mi piace che tutto avvenga e che tutto sia possibile per una eventuale esperienza e formazione professionale. Però a me mancano Sergio Endrigo, Gino Paoli, Umberto Bindi, Lucio Dalla, Lucio Battisti. Non mi mancano perché non sono più fisicamente qui, mi manca quella severità e quella grande maestria di mettere insieme le note e di farle diventare il mio mondo. La musica è finita, il nostro concerto, il cielo in una stanza, Era d'estate e tante altre pagine musicali che secondo me fanno impallidire purtroppo queste generazioni di adesso, che forse non è colpa loro, perché evidentemente se tornasse la musica nelle scuole e questi nostri gestori governanti avessero il pudore di poter in qualche modo spendere dei danari perché questa cultura non sia più una velleità ma un veicolo per portare la gente ad avere una coscienza umana, politica, sociale. Questo deve fare la musica, esatto, al di là delle nostre rispettive competenze, ma la musica ha il dovere e il diritto di poter esercitare verso gli altri una possibile contaminazione che li faccia aprire gli occhi, e li faccia volare, ma anche gli faccia finalmente mettere i piedi per terra. È bellissimo, infatti Renato, tutto questo succederà perché la prima puntata di settembre ci sarà il ministro della pubblica istruzione che interverrà qui a Voice Anatomy, con la quale volevo parlare proprio di questo. Sequestratelo. No, no, esatto, non fa le leggi. Esatto. Sì, sì. No, ma succederà. Questa cultura. Musica e lingua italiana nella scuola, cioè proprio il coaching, la musica. Un'ora di emozione obbligatoria. Un'ora di emozione, è vero, sa così. Classe. Sì, sì, classe. Succederà. Renato, ti rilascio alle tue prove complicatissime, itineranti per adesso. Finalmente siete tutti a Roma, no? Orchestra, coro, siamo tutti ballerini, qui, siete tutti. Siamo sul palco e non è questa una finta. No, sul palco, quella vera, prova vera, reale. No, stiamo proprio, siamo militanti, no? Sì, è così. Insomma, è molto emozionante, vi trasferisco questa mia emozione perché, malgrado i miei anni, sono ancora uno che per fortuna prova questi grandi questo pathos, questa bella elettricità. Quindi sì, sì, te l'ho detto, sei curioso. Sei curioso. Vi mando i loro saluti di tutti, anche del maestro Renato Serio. Grande. Lavoriamo tutti per voi. E io vorrei ringraziare Mariella di avermi regalato ancora un fiore della sua serra. Eh sì, pazzamente amare. Grazie a te, Renato. Un fiore della tua serra. Di essere quello che sei. Grazie. Di aver dimostrato finalmente che queste donne non hanno solo le tette, non hanno solo questa femminilità molto piacevole, ma hanno anche un cervello meraviglioso e anche due sfere posizionate, non vi dico dove, che fanno invidia a quelle dei maschi. Uomini. Senti, com'è, ti chiedo solo questo, poi ti saluto, com'è cominciare con la voce di Dio questo spettacolo, cioè con quella voce meravigliosa? Io ce l'ho sempre presente lui, sì, Da quando mi sveglio la mattina, quando vado a letto non mi dà tregua, sì, perché ogni volta mi dice: ma che hai scritto lì, ma che hai fatto là, ma perché mo dici sta cosa? Ho capito, peccato, cioè, io ce l'ho come referente, è lui il punto di riferimento, lui mi dà tanto, una volta a me me lo disegnarono quando ero piccolo come un castigamatti, mi dicono: guarda che quello de, che se fai una cosa, quello te manda all'inferno, quello te fa, quello è vendicativo. Poi crescendo, per fortuna, abbiamo cominciato ad avere un rapporto, e questo è avvenuto fuori della chiesa, perché in chiesa non lo so se lui era timido, io pure, però fuori della chiesa riuscivamo a dialogare bene, capito? Io mi sentivo molto privilegiato, perché ovviamente lui si occupava di me in prima persona, senza demandare ministri o quant'altro. Certo, no? Veniva direttamente lui, no? E oggi addirittura viene qui e recita con me, sì, senza prendere un euro. Esatto, perché lui sta parlando così perché la voce di Dio sono io, capito? Hai capito? No? E come disse Woody Allen, mi sembra Dio, beh, qualcuno dovrà pure ispirarmi, va bene. Renato, in bocca al lupo di questa bellissima avventura, anche noi tantissimo. Ciao Renato. Ciao Renato. Ciao Renato. Ciao. Che bello. Ciao. Che l'uomo con la più grande ironia fortissimo al mondo vive con questa serenità, grande, e la gente lo sa, la gente lo respira, per quello lo ama. Ma sì, ma è curioso, è un bambino. È bravo, è continua a nutrire il bambino, sì, meraviglioso. Esatto, ha fatto uno spettacolo pazzesco, cioè, dura più di 3 ore, ma è meraviglioso. Sono veramente... Va bene, sto andando in pubblicità, il GR è un po' più lunga, tra poco poi salutiamo Amy Stewart e Gerardo, rimarrà con noi Mariella Nava. A tra poco, voi sanatomi, ciao! Mr. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Voice Anatomy. Bentornati signori miei, 16:06:28 in questo momento. Colgo l'occasione di questo blocco per salutare e ringraziare Amy Stewart e Gerardo Di Lella, che si stanno preparando per questa avventura alla Versiliana il 15 luglio, che sarà sold out sicuramente. Si spera. Ma sì, di che ci sono, si io, spera. Dillo, certo, dillo, certo, che canto anch'io delle cose insieme a Amy. Vedrai che la gente accorrerà di corso. Sappiamo subito. Amy o Emai? Vabbè, Amy. Allora, grazie grazie davvero. Grazie a te, grazie a tutti. Assolutamente, poi ci rivediamo a settembre perché tanto, sì, ricomincerà una nuova avventura. Ci ha già rimandato a settembre. Ma sì, ho rimandato in canzone, in musica pop, ho rimandato, ma sicuramente per presentare questa avventura nuova che farai con Amy. Non finirà lì, non finisce. No, non finisce. Allora potete anche alzarvi, fare anche rumore, andare e dare il vostro posto a Mariella Nava, che tanto Scusi. Si alternerà sia al vostro posto che al pianoforte, al posto di Vito. Perché vabbè, la facciamo. Sarò ubiqua. Sarei ubiqua. Una d'una e trina. E allora, grazie Amy. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ecco. Potete andare su queste musiche, così alzarvi tranquillamente. Ciao Stewart, ciao Di Lella. E intanto si baciano. Ciao, ciao, ciao, a presto. Questa è la vera diretta. Allora Mariella può prendere l'altra cuffia, andare a fuoco col microfono, non stare più al mio fianco. Questa è l'acqua, puoi fare ciò che vuoi. Grazie. Oh, vedi? Ora un microfono anche io. Ciao. È Mariella Nava che ha scritto per tutti, anche per me. C'è una bellissima intervista che hanno preparato i miei autori, soprattutto Alessia Navarro, insomma, che è un percorso che ha detto devi seguire didatticamente e filologicamente l'avventura di Mariella Nava. Mamma mia. È giusto, perché magari uno ti conosce veramente perché hai fatto cantare veramente tutti. Tutti. Mm. Hai cantato? Sì, molti, vuoi che li leggo? Però tutti. Vuoi che li leggo? Vuoi che io cominci a leggere? Da dove cominciamo? Da qui, sì. Sono tre pagine. Si evince che sono canzoni vecchie, per altri artisti. Cominciamo dall'86 ed è anche la prima domanda. Ecco, questa è la prima svolta della tua carriera come autrice di testi musicali. Però avviene una canzone in particolare, questi figli. Arriva canzone... una telefonata a casa mia. Gianni Morandi, questo, pronto, no? Pronto, sono Gianni Morandi. Mi hai mandato una cassetta. Ma pure imitatrice la dava. E quindi io non credevo. Cioè, dicevo, ma forse ha sbagliato numero o è uno scherzo. Invece era proprio lui che mi diceva di aver ricevuto questa cassetta da me e che ne era rimasto entusiasta perché dentro c'era una canzone. Diceva, scusa, ma quanti anni hai tu? Perché sembri più grande da come scrivi. Quanti anni hai? E ho detto, no, io sono poco più che ventenne. Parliamo di 32 anni fa. Sì, e quindi a un certo punto, insomma, ho dovuto spiegare che quello che c'era in quella canzone erano un po' i pensieri di mia mamma. Ecco, dei figli, proprio questa è la prima cosa. Hai vomitato sul foglio, sì, come si dice, quello che ho rubato. Pensieri di mia madre, li avevo messi dentro una canzone. E questa è stata la mia prima canzone che ha visto una realizzazione, perché lui l'ha messa dentro il suo album. Sì, uno su mille ce la fa. È proprio stato anche il rilancio della sua carriera, in qualche modo. Fra queste canzoni stonate del grande Aldo, che non c'è momento. Più. Sì. Senti, te la ricordi a farla due note al pianoforte? Te la senti? Ah, ci provo. Ci provo. Adesso comincia il tuo percorso. Prima stavi seduto vicino a me, adesso comincia a fare avanti e indietro. Ci provo, aspetta, ecco. Vado di là. La Nava si alza e la Nava va, come si dice Fellini, no? C'ho una cuffia, no? C'è anche una cuffia, c'ha tutto, certo. Qui hanno tutto. I capelli di Vito Caporale sono... Una sì o una no, così, giusto per... Cioè, questa è la prima, proprio questi figli. Ok, vado, meno male che sa anche suonare Mariella. Ci dai. Provo, perché mi... Te la senti Maria? Ci provo, dai. Dai. Dal vivo, signori. Questi figli, dove andranno mai? Tanta fretta nelle gambe e sempre in mezzo ai guai. Questi figli, i miei figli, gomma ai denti e poi jeans di moda, mani in tasca, musica e bignè. Ma che figli, questi figli, troppa libertà. Sempre zitti, tristi o allegri, e chi li capirà? Quanti affanni questi figli e privazioni a noi, con gli amici e amori in testa, non li fermi mai. Che ora abbiamo fatto? Non fa bene pensare, in fondo a modo loro mi tengono nel cuore, ma se spengo la luce mi fa rimuginare. Gesù, fammi dormire, domani a lavorare. Questo era il tuo startup, tesoro mio, e che partenza a razzo col grande Gianni che ti chiama e tu che racconti la tua vita, che poi quello fa un vero autore, no? Racconta se stesso in qualche modo sfaccettandolo. Lasciala lì la Nava, Caporale, mettiti di qua, lasciala piacere. Qui. No, grande piacere ascoltarla. No, bravo, ascoltarla, non sei ospite. Non posso interloquire. No, tu canti da là, insomma, e lei ti accompagna. Magari. Perché Mariella bisogna conoscerla bene. Insomma, questo è stato l'inizio, hai cominciato come cantautrice. Come autrice. Come autrice. Poi da lì il primo con la RCA, subito, ha detto fermatela questa signora, il primo Sanremo. È il primo Sanremo. È l'87 questo. No, ed era Fai Piano. Sì. Fai Piano, sempre ovviamente scritta da te. Sempre, io sono un'unica rea, confessa. Tu sei, paghi pegno su te stessa. Sì, esatto, non, se so sbaglio, la colpa è mia. È colpa mia. Anche se canta male quella a cui l'hai data. No, questo non è mai accaduto. Non, è successo. Non ti sei mai arrabbiata con nessuno? No, no, arrabbiata, tu non ti arrabbi, si vede che sei un tipo. No, no, non scrivi più per lui, casomai, o per lei. No, ma guarda, è difficile che un interprete non ci metta l'anima su una canzone che sente, che vuole, che prende. Viene, c'è una richiesta da quel punto di vista ormai, cioè Mariella, mi scrivi una canzone che parla d'amore, che parla di morte, che parla di solidarietà, no, che parla di... No, l'argomento mai. Te lo no, decidi mi tu. Lasciano proprio campo libero. Ormai no. Sì, decido. Com'era no, ma da questo? Subito. Va, anche quando me lo disse il grande Renato, che mi disse, te hai scritto per tanti, ma scrivi una canzone pure a me. Abbiamo scoperto che Mariella Nava, nella sua vita precedente, era un'imitatrice fortissima, no, era una showgirl. Com'era questo film? Fai Piano, come due note te le fai ricordi? Fai Piano, Fai Piano, nel senso, tanto ce l'hai lì. Però che... E la Nava va non è male come titolo di un concerto, lo sai. Aspetta, vediamo. Mi piacerebbe molto, esatto. Facciamo così. Che vinca il silenzio. Che vinca il silenzio, bello. Ora che tutto per aria. In questa sera scontata. Non voglio essere come te. No. Voglio avere paura, credere ancora, essere insicura e piano, eccetera, eccetera. E allora andiamo pochi secondi in pubblicità e torniamo con i Barahona, che adesso non suona più Vito Caporale, ma c'è Mariella Nava che accompagna se stessa raccontando la sua storia, gratificando se stessa e noi tutti da viva, che è meraviglioso. Sì, sì, da viva. Da viva, ma... è bello ricordare le persone. Ma lo sai, da le persone viva. Tante volte quando mi incontrano, ma è più bella da viva. Grazie. Penso di farti un complimento tante volte, questo da viva, ti dico pure, lo sai che lei è più bello di persona? Smetta la televisione, cioè devo chiudere, cioè, non faccio il modello. A tra poco, Voice Anatomy, Mariella Nava e gli amici dei Barahona. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno con la bravissima e simpaticissima, disponibilissima Mariella Nava, che ci racconta un po' di sé con gli amici dei Barahona. Stavamo percorrendo la tua carriera dall'inizio, è bello sapere i risvolti di quella canzone, com'è nata. Siamo arrivati al primo Sanremo dopo questo primo Fai contratto Piano. Fai Piano. Lo sai che incontrai Grillo, perché insomma tornai in treno. Quando faceva il suo mestiere, insomma. Certo. Esatto. E mi disse, Fai Piano, Pick Indolor praticamente. Mi disse. Imita pure Grillo. Abbiamo lo spettacolo. Sanatomi proprio. Abbiamo lo spettacolo. Ci sta, ci sta. Nessuno sa, aspetta, dietro le quinte. Dice, indovinate chi è l'ospite stasera una musicale. Una volta Renato Zero mi dice, ah, tu sei così, ridammi i soldi indietro. Ma invece è questo che fa, secondo me, lo urlo sempre da tutti i microfoni. L'autoironia, l'ironia. Salva la vita, santa ma miseria. Ma scherzi, poi uno può scrivere cose intense, importanti, però deve rimanere leggero. Cioè, una leggerezza calviniana, come si dice, non superficialità. E tu non hai quella superficialità. Dopo arriviamo anche a un altro grandissimo, è scritto per lui, cioè Edoardo De Crescenzo, voglio sentirlo un attimo, questa Come mi vuoi, Edoardo De Crescenzo, ovviamente Mariella Nava. Come mi vuoi, posso fare tutto, inventare un trucco, come mi vuoi, se ti spendo un fiore. Mi amore, come mi vuoi, distratto, un po' incosciente, banale ma divertente, violento, dimmi se va bene, se non rallento, come mi vuoi, penso mentre mi arrendo, ancora non ti prendo. A te, al tuo meccanismo, al tuo interruttore, corrente alternata, ma sento che c'è. Io cerco, mi informo e poi mi trasformo, ma aspetta che torno, non sono più me. Amore ghiacciato, è un po' complicato. Avrai la tua formula e dimmi qual è. Yeah. Bello, poi insomma, sì, Edoardo De Crescenzo, che è una persona, io ho avuto il piacere di incontrarlo un paio di volte ed è veramente una persona pazzesca. Squisita. Pazzesca, sì, grande intelligenza. Devo dire che io cerco di non essere ancorato ad ancora. Ma cioè, è una lui voce è... che dovrebbe tornare. Che deve tornare. Io compro qualsiasi cosa lui faccia, lui respira, io ce l'ho, perché ha fatto delle canzoni. La sua fortuna, sfortuna fra virgolette, è quella ancora come startup della sua vita, ma ne ha fatte altre più belle ancora. Sì, l'odore del mare. Ma noi, le mani, vagabondi, ma, no, ma mille ne ha fatte. Ovviamente tutti gli chiedono quello, invece devi bypassarla quando parli con lui. Io spero di risentirlo quanto prima, perché è stato qui Insavitabile proprio poche settimane fa. E saluto, che è una persona anche lui eccezionale, eccezionale, sì, vero. Grande musicista. E allora vorrei un giorno magari sentire Edoardo, magari all'inizio della prossima stagione. Ma guarda quanta altra musica c'è che sembra nascosta, sembra dimenticata. Vero, sembra nascosta. Ma perché? Non lo so, vedi, parlavo con Enzo Avitabile l'altro giorno. Lui hanno fatto quest'ultimo doppio CD che è Music Life, prodotto e girato da Jonathan Demme. Il regista, che non c'è più da poco tempo, di Il silenzio degli innocenti e Filadelfia, si è dedicato a Enzo Avitabile, cioè ha detto: per favore, posso riprenderti, posso raccontare la tua storia. E hanno cantato insieme con tutto il mondo, cioè Enzo ha chiamato i più grandi musicisti del mondo e ha duettato con loro queste canzoni bellissime, che l'hanno portato anche spesso, a vincere due Davide di Donatello con Indivisibili. Sì, persona incredibile. E De Crescenzo, credo, poi quella vocalità difficile, impossibile. Seguirò lui in un concerto, probabilmente sì, non è uno cantare. Stevie Wonder dentro la sì, Napoli. Bravo. Dentro, Stevie Wonder napoletano. Non è male. Questa sì. È come mi vuoi. E dopo che è successo? Che poi ha cantato anche Mina questa, oltretutto. L'ha cantata anche Mina dentro Sorelle Lumière, perché sì. Sai che lei non appare, però fa i no. dischi. Cioè, ecco, so, c'è stato Massimiliano Pani l'altra settimana. Esatto. Ho detto: beh, chiamiamo mamma adesso. Certo. Ci ho provato, l'ho preso in controtempo, ma non è successo. Vabbè, si può riprovare. Sì, io ho detto. Prima o poi la beccherà. Sì, beh, risponderà al telefono prima o poi, non lo sanno. Al figlio almeno. Shakunda. Esatto. Pure lei mi sa. Come mi vuoi. Ecco, non farà... questo ha fatto due canzoni per Mina Maria, la prima e l'ultima. Dopo questa... dopo ma questa... no, non è vero, anche lei è molto ironica. Da lei sì, da morire, posso dirlo. E poi arriva il momento anche di Bocelli e di tutto Bocelli. Il mondo anche. Che poi quella canzone lì è rimasta in un cassetto un sacco di tempo. Quanto... Molti artisti la sentivano e ne avevano paura, bella, dicevano, bellissima, ma è troppo italiana. Che è una cosa che non capivo. Oddio, come Mozart, troppe note. Che problema c'è? Sì, è bello lo spettacolo, ma c'è poca satira politica. Non c'ho scritta, non vuole esserci. Come troppo italiana. Sì, dicevano troppo italiana perché io. Tu di dove sei? Di Barletta. Esatto, di Orecchietti. Di Taranto. Però, appunto, tutti ne avevano troppo paura. Troppo melodica, certo, mariosa. Sì. Ma meno male che non l'hanno fatta, perché poi ha incrociato sì. La vita di Andrea Bocelli, la voce di Andrea Bocelli, esatto. Ha fatto il giro del mondo. Esatto, e così. Mi sono fatta a casa. Meritatamente, ci ho pagato il mutuo. Diciamo che ci ho pagato il mutuo. Che l'ha cantata anche Zizi Possi. Sì, in Brasile è diventata una hit addirittura. La sentiamo dalla voce di Zizi Possi un attimo, ce l'abbiamo? Poi la cantiamo qui. Obbligata. Questo ci abbiamo pagato la pigione. A luce. Io conosco la tua strada. In italiano. Ogni donna, una donna. Ma si sente. Zizi non poteva essere che donna. Certo. Un po' devi continuare tu, Mariella. Sì, per forza. Appena amore, quando attacca il ritornello, sei tu, eh. Mm. Poi sei un'altra. La so. Parte difficile. È quella, beh, amore, la scritta te, mica io. Beh. Quello è il problema. Beh, è facile. Tutto che ti posso fare bocelli. Lo sai bene che non devi riconoscerlo, non puoi. E sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Attenzione. Ora faccio in sogno. Falla in sol, come ti pare. Eccolo. Ve la sentite pure voi? Vai. Io la faccio così. Hai mai fatto niente solo per amore? Hai sfidato il vento e urlato, ma hai diviso il cuore stesso, pagato di scommesso dietro questa mania che resta solo mia. Senza fiato, per amore, perso e ricominciato, e devi dirlo adesso, quanto di te ci hai messo, quanto hai creduto tu in questa bugia. Sarebbe come se tutto questo mare annegasse in me. Beh, brividi. Daphne piange, Daphne Nisi, una dei mi fa questo effetto, devo dire, queste canzoni. Va bene, è proprio emozionante. Grazie. Bello. Capolavoro, veramente. Grazie, un capolavoro. Daphne. Questa è bella, bella, bella, bella, bella, davvero. Cioè, uno poi rischia di diventare proprio qualunque con questi termini, bisognerebbe coniarle qualcuno di nuovo quando senti delle cose. Ma lo sai che questa canzone, me lo diceva prima... Delio ti faceva una domanda, Delio. Ecco, mi diceva, ma è vero che questa canzone ha partecipato a Sanremo fra le nuove proposte? Sì, fra le nuove sì, è vero. Con Flavia Stolfi, esatto. Fu Pippo Baudo, il buon Pippo Baudo, che ci capisce qualcosa, esatto, eh? Che si innamorò di questa canzone. Beh. Che l'affidò a lei. Io me lo ricordo perché io mi innamorai di questa canzone, è la mia esperienza personale, io me la ricordo lì, quell'anno. E fu esclusa. Certo, ovviamente. Beh, certo. Però mi ricordo che in quell'edizione lì Baudo fece una specie di seduta psicanalitica agli esclusi nel dopo festival. Va tutto bene, una seduta, va tutto bene, va tutto sì, bene, e c'era Flavia Stolfi, la poverella, sulla barella, tipo così, sul lettino. Vai a raccontare che va tutto bene. Beh, siamo usciti, non abbiamo vinto un cavolo, però insomma, scherzando, va tutto bene. Quasi. E mi ricordo che disse: tu hai una canzone bellissima a cui il tempo darà ragione. Quindi è stato profetico ancora una volta. Che Pippo ogni tanto Pippo cammina Pippo. Sull'acqua pure non lui. Niente, non ci sta, ci sta. Non Pippo. C'è niente da fare. No, no, è Pippo Nazionale. Io le ho fatto fare la voce a Massimo Lopez nel mio spettacolo che fa il dio della televisione imitando Pippo Baudo. Cioè. Dico, ma chi sei? Dio. Ma parli come Pippo Baudo? No, è lui che mi imita. L'ho inventato io, lui. L'ho inventato io. E questo è il grande Pippo Baudo. Restate con noi, signori. Ancora due blocchi insieme a Mariella Nava e Barahona per percorrere questa vita meravigliosa, avventurosa, come Emilio Salgari. Non girando il mondo, ma facendolo girare a noi. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati, signori. 16:31 e 37 secondi. Barahona, come cornice meravigliosa, che accompagnano questa bellissima puntata insieme a Mariella Nava, con la quale stiamo percorrendo questa carriera che ci vorrebbero veramente quattro puntate, nonostante la tua giovane età. Ma tanto torni, dove vai? Siamo arrivati dopo questo bellissimo Per Amore, che ha avuto questa fortuna postuma, nel senso buono del termine, grazie anche a una grande intuizione di Baudo, ma che la canzone è bella, c'è poco da fare. Poi Bocelli l'ha portata in tutto il mondo. Sì, ma va servita bene, è anche una bella canzone. È una bella canzone, esatto, c'è la base che è importante. C'è la base, se anche se cantassi io fosse, sarebbe bella, dai. Io penso di sì, però sì. Dai, ci vuole una bella opportunità, una bella stella anche per una buona canzone. Ma la stella ci vuole sempre, ma ci ti vuole. Devi trovare col cielo vicino, perché se c'è una bisogna stella avere fiducia. Ed è giorno, ma neanche si vede, madonna che poeta. Senti, dopo questa orrenda cosa che ho detto, dopo Per Amore, proprio questo passaggio, cioè è il momento di Spalla al Muro. Prima abbiamo sentito Renato. Beh, ed è arrivata quella, abbiamo sentito anche i Barona. I Barona, per cui io direi insieme ai Barona, se ve la sentite, tanto va armonizzate voi. Questa Spalla al Muro fu, com'è nata? Ti ha chiamato Renato, gliel'ha data tu, com'è successo? Ci siamo incontrati nel corridoio della RCA, tutto RCA. Tutti nel corridoio. Ma è fatta di questi incontri poi la vita, sì. Dovremmo incontrarci pure noi fra di noi ogni tanto. E con fiducia mi chiese una canzone, così, insomma, mi disse. Era un momento particolare poi della sua carriera. Questa è stata quella che forse gli ha dato l'aggiunta, botta. Tu dici, l'ingrediente, sì, è stato il pezzo in più, il pezzo mancante di quel momento, serviva un altro piccolo brivido dietro la schiena della sua carriera, e questa canzone ha dato, anche perché parlava di vecchio, nel senso che ok, sto a spalla al muro, però eccomi, ci sono ancora, ci sono, ma anche appartiene, cioè è un tema, questo una tematica un po' che appartiene a noi tutti, no? Sia quando pensiamo alla nostra di vita, sì, sperando che si allunghi il più possibile, arrivando a toccare anche questa fascia dell'età, ma della nostra vita, ma anche quando osserviamo, no? Gli anziani intorno a noi, i nostri parenti, i nostri cari, ma anche persone che non ci appartengono, ma che le vedi un po' stanche, camminare, avanzare lo stesso. E quindi fu da qui, insomma, che partì la mia intuizione, gliela consegnai, e poi da lì il successo che sappiamo, insomma, che ricordiamo tutti quanti, l'ovazione infinita fine della prima esecuzione. Già dalla prima. Forse non è mai accaduto più io non l'ho frequentato Sanremo, ma non mi ricordo un'ovazione, rivoluzione, devo dire. Esatto, perché fu un successo immediato. Mamma, e allora proviamo a riproporla, vediamo, senza nessun tipo di prova, Barone e Nava insieme. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che scende. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida, e tu lo sai che c'è. Chiameranno vecchio, e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vali quattro lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno. Ciao, documenti, pezzo mio. Bravo. Beh, dai. Bravo, santa miseria. Bravi ragazzi, grazie. Che bella, sì. Poi, insomma, ormai vi voglio. Sì, sì. Vi voglio. No, è bello, poi guardandosi solo negli occhi. Se no, nascono pure negli happening serali, eccetera. Nascono certe belle idee, ma chissà cosa nascerà. E poi andiamo avanti. E ovviamente, nel frattempo, scrivi per chiunque, nel senso buono del termine, nel senso che continui a scrivere per te stessa. Per loro, per Mietta, per Mina, per Amy Stewart, abbiamo parlato prima, per Irene Fargo, per Massimo Bizzarri, ancora per Renato Zero, la Flavia Stolfi e Bocelli, Giulia Cirese, Loredana Bertè, Tosca, Siria, ma va veramente, guarda, continua a leggere, Annalisa Minetti, Lucio Dalla, Notte Americana, che ricordi del grande Lucio? È un personaggio troppo particolare, come si dice, indefinibile, perché hai avuto un contatto a parte la canzone, c'è stata una richiesta oppure c'è stato un... No, lì avevo scritto io una canzone che mi faceva subito pensare alla sua voce, proprio alla sua... lui era un personaggio eclettico, per cui poteva fare di tutto, dal alla nota strappacuore napoletana, no, di Caruso, e quindi insomma cercai di mettere insieme, di miscelare questo, e venne fuori questa canzone che poi lui ritrasformò in Notte Americana, perché la mia era Tornare Vivo come titolo, era proprio guarda sono qui, tu mi vedi che respiro, mi senti che sono qui però non vivo perché non conosco l'amore più, quindi fammi ritornare a sentire a questi brividi. E lui è Notte Americana. Benissimo, ci sta bene. Anche Gigi D'Alessio è stato ospite la scorsa settimana e la gente ha scoperto un Gigi D'Alessio diverso, c'è chi lo ama, chi magari lo ama di meno, però ha scoperto un Gigi D'Alessio che è una persona divertentissima, ironica, piacevolissima. Un caro amico, veramente. Caro amico. È una persona eccezionale, è un grande musicista, sa suonare molto bene. Sì, no, ma infatti è che lui non conoscono bene chi è, allora ogni tanto ma bisogna... Sì, sai, quando si parte dal neomelodico e poi c'è uno scotto da pagare. Ah sì, lui... ognuno poi ha deciso su ognuno di noi, cioè chi mi ha visto da parte, se tu pensi a mia moglie quando l'ho conosciuta, non mi amava, ma non mi amava come uomo, non mi amava come attore, perché mi vedeva solo al Costanzo Show e diceva parli sempre tu, non fai parlare agli altri. E non vedeva altre cose perché vedeva un po' Star Sole mentre io facevo Mercante in Fiera, vedeva un altro programma mentre io non facevo un altro, apriva la ditta, non gli faceva ride, per cui vabbè, ormai si è innamorata cosa... però sì, ormai sono nove anni, l'ho incastrata, poi ovviamente hai Iva Zanicchi ancora zero, Massimo Bertacci ancora Renato Iva zero. Zanicchi perché ci incontrammo al Music Farm, ti ricordi? Sì, è vero, al Music Farm, questa esperienza terrificante. C'era pure Califano al Music Farm, no, all'edizione successiva. Ah, l'edizione, che grande. Nella mia c'era Fausto Leali, grandissimo. Oh, ecco Fausto, a proposito di Boys Anatomy. Poi mi dai il contatto. Che mi chiamava Mariella Nava, tutto attaccato. Mariella. Sai perché? È vero, perché lega, eh? No, ma sai perché? Nome, perché tutti quanti avevamo no? Il nome. Avevamo, no, il come si chiama? Il trasmettitore qui con la batteria che chiaramente certo, si esauriva, il microfono, no? Sì. E ogni tanto ci chiamavano dall'interfono, là dicevano che so, Dolce Nera, cambio batteria. Sì. Fausto, cambio batteria. Ah, però qui Iva cambio batteria, arriva a me Mariella Nava cambio batteria, ma perché sempre con nome e cognome Mariella Nava tutto attaccato, però, quello, tutto attaccato Mariella Nava tutto attaccato, avrebbe sentito lo spettacolo tuo Mariella Nava tutto attaccato, che non è male per niente. E poi anche dei duetti pazzeschi, io ne voglio sentire uno e poi mi racconti come è nato con Dionne Warwick questo It's Forever. Mamma mia, ecco, prima ce l'ascoltiamo un pezzetto, sì. E poi mi racconti. Rapporto con Dionne Warwick tramite Barbacharach oppure magari no, ero ad un concerto di quelli di Natale, quelli natalizi con tanti artisti, sì. Insieme c'era anche lei, in un momento di pausa stavo suonando proprio per amore al pianoforte e lei si avvicinò e disse oh, wonderful music, wonderful piano, wonderful voice. Wonderful. How much? E dopo mi chiese se avessi mai provato a scrivere in inglese qualcosa. E dissi no, non ci ho mai provato, ma se me lo chiede Dionne Warwick, ci provo quantomeno. È come se Martin Scorsese e Pino, non so se hai mai recitato in inglese, ma ci provo. Ci provo, cioè, subito. Non è un problema. E quindi è nata questa canzone, It's Forever, e io l'ho provinata da sola e gliel'ho spedita. E lei l'ha ha detto oh it's wonderful, it's wonderful voice, wonderful piano, but it's not for me, è attaccato, no ha detto vengo in Italia a cantarla con te, cioè non abbiamo più risentita Dionne, non abbiamo più risentita, sì siamo sempre in ottimo contatto, tra l'altro insieme andammo a cantare sul palco di Renato Zero in un suo tour, capirai, tu e Dionne Warwick ragazzi, che bellezza. Invece arriviamo adesso a un piccolo salto con Epoca è l'ultima fatica della fatica nostra... è la parola giusta, esatto, perché ho fatto tutto da me. dal produttore al consumatore. Esatto, sì. Pure la fotografia della copertina. No, quella no. Quella è di Gianni Franzo e la copertina è di Lorenzo Marini, che è un, come si dice, un copywriter, uno scrittore, filosofo, agente pubblicitario. Pure lui è tutto. Tu conosci solo gente che all by myself, anche sì, Carmen. No, è bellissimo perché insomma è una persona, un'amicizia di pensiero, proprio di quelle profonde, come sta nascendo adesso qui. Esatto, l'unico con la fuga dei cervelli sono io. Io mi voglio sentire la seconda, come si intitola? Che è molto... Lo scontrino. Sentite, sembra se c'era De André, te la rubava adesso, subito. Sentite un attimo, sentite. So se posso, tanto l'ho riconosciuta lo stesso. Qui fermi in fila alla stessa cassa, ha visto prima là in fondo che ressa. Potrebbe descriverlo, lei è una poetessa. L'aria è impazzita, cosa è successo? Non c'è pazienza, tutti nervosi. Si scatta subito e sempre più spesso. E la scriva una bella canzone, lei così attenta, la faccia speciale. Sa raccontare ogni cosa a dovere, lei che capisce, lei che sa vedere. Dica alla gente di essere forte sotto a ste nuvole che incutono pioggia. Pure sto tempo ci ha messo del suo, concorre spaventa da Genova a Foggia. Ma questo paese meraviglioso, mi piange il cuore vederlo affogare. Non è mai stato così inoperoso, scuro nel volto e così inospitale. Lo ricordo povero e grande, con il sorriso e la voglia di fare. Voglia di crescere, volersi bene, e poi del rispetto vogliamo parlare. Beh ragazzi, e allora io questa canzone la volevo portare a Sanremo, lo sai, l'ho portata al buon Carlo Conti, che l'ha sentita e ha detto bella, però ci vorrebbe un rapper. Ciao. Salutare, no, c'è stato sì, un ciao. Ho, no? Ho preso lo zaino, ok, la prossima volta. Capito, Mariella? Mariella? Pronto? Pronto? È caduta la linea. Come ci vorrebbe un rap? Ma ti prego, ma questo è De André. Cioè, se c'era il grande. Io non so se il figlio l'abbia mai sentito ancora, no, perché è uscito adesso. Lo so. Ma è bellissimo. Okay. Mi senti un pezzo anche di epoca, la prima dell'album, quella poi dal titolo? È bellissimo quest'album. E tu dimmi che epoca è, pubblicata così su una bacheca, ma la vita reale dov'è? Ce l'hai messa già su un'ipoteca, concentrati a trovarci da lì, ci incontriamo e da dirci più niente, tutti persi in frenetici click. Ci guardiamo ormai distrattamente, che perfino un dolore sta lì, messo in mostra, in video fotografato, chiedi aiuto come dentro un film, ma è conforto o lo abbiamo violato? Da te nasciti amori e di più, quanto abbiamo e a chi lo avremo inoltrato? Si sente pure il graffio di Mia Martini qua dentro, eh. Qualcuno me lo dice, però insomma lei è veramente inarrivabile. Inarrivabile, sì, però vabbè, che c'entra, no, però tu la racconti forse bene. Forse c'è una passione che c'è, sì, c'è comune, perché sai, due anime del sud, lei calabrese, io pugliese, quindi sicuramente c'è questo graffio, c'è bellissimo. C'è qualche radice comune. Mary J. Blige anche c'è questo, sì, graffio. Sì, sì, sì, c'è questo, questa voglia di andare al proprio a fondo delle cose, cioè non essere mai sulla superficie soltanto, no, e basta, no? Ma è quello, quello è il sol, permeare, quello è il sol vostro, esatto, il sol del sud. E allora tra poco, per l'ultimo blocco insieme con Mariella Nava, ma tanto torna. A tra poco, Voice Anatomy. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Voice Anatomy. Eccoci qua, tantissimi messaggi. Vi chiedo scusa che non li sto leggendo, ma sono tutti di complimenti, di abbracci anche molto intensi. Qualcuno chiede ancora l'imitazione di Morandi, vabbè. Ecco, come vuoi, guarda adesso, qui c'è tornato subitissimo, guarda. Stavo parlando di questo album bellissimo che racconta poi i 30 anni della tua carriera, che epoca, e stavamo dicendo qui durante la pubblicità che ogni brano è un regalo che ti sei fatta e che hai fatto alla musica italiana, perché sì, ogni brano sembra è quello che dedicato. Diceva un po' Renato, no? Che sì, ci mancano certi stili musicali, ci mancano come il pane, e quindi io che sono cresciuta anche grazie a queste canzoni, vari stili, a parte il rap, queste forme diverse di musica, a parte, no vabbè, il rap è arrivato alla fine di questo viaggio. Esatto, cioè, dovresti farlo. Vabbè, anche no, se c'era già Joy Tex, vi ricordate? I got you. Oh, oh, oh. Era il primo rapper, in fondo, era il primo rapper della storia. Quindi mi ricordo la grande Mariangela Melato che si era tutta dentro una valigia. Sì, era, è vero. Era un varietà di un sabato sera. Si aprì la valigia e uscì lei. Come ci stava in quella valigia? Non lo so, non lo so. Pazzesco. Anche lei è un altro personaggio che ci manca tanto, Mariangela Melato. Persona deliziosa. E io voglio sentire una, possiamo sentirlo un altro pezzo che è uscito adesso, un altro singolo, Ho bisogno di te, lo vogliamo sì, sentire. Sì, questo è il nuovo singolo per quest'estate. Sai, ci manca perché abbiamo tante canzoni che ci fanno ballare. Questa che è dedicata, esatto. Questa è dedicata, ecco, sta di là mio marito, ho bisogno di te. Dove? Si sta ora guardando diventa rosso come la sua maglietta. Si è girato dall'altra parte. Fa finta di niente. Vabbè, ognuno di noi ha un amore, dai, a cui dedicare e dichiarare il proprio bisogno. Quindi. E allora questa ce l'ascoltiamo tutta. Vai. Finito per dirlo, ce ne ho messo del tempo, ma che bello capirlo, che si tratta d'amore, se non sai definirlo, ogni immagine, esempio, non ti basta spiegarlo, e le cose si mettono in moto, millenni che erano lì. Lasci girare di nuovo dal cuore, così. Ho bisogno di te, con tutta la mia passione, come un buon motivo su una nuova canzone, e puoi leggerlo dentro, te lo dico da nuda, finché tu ci creda, non c'è trucco che illuda, lieve come quell'onda, il bagnasciuga lo sa, il mare la lascia fare, la sabbia si dà. Stagioni, solo il meglio farò, e con questo legame speciale sempre a fianco mi andrai, se dovessi incontrare una stella giura che mi riconoscerai. Ho bisogno di te come il baco alla seta, come un indice pieno dalla alla Z. Sole alla luna, come un dado lanciato incontro alla sua fortuna, e non c'è niente da fare, anche il cielo lo sa, non mi serve nient'altro, sei tu metà. Sicuro a ogni frase finita, ho bisogno di te. E allora, Mariella, questa è l'ultima veramente fatica epoca che è dedicata. Qui sembra un po' Lucio Dalla, però, per quanto mi riguarda. Però è finita così. Perché sei la mia vita, questo mi hai tolto. Ah, scusami. Proprio quella la parola? Ah. Da lì tuo marito, digliela. Ecco, sei la mia vita. Beh, ragazzi. Dedica in diretta, nonostante ci abbia una maglietta rossa che insomma non è bellissima, però insomma lui deve essere veramente bello per averti conquistato. Sì, sì, è bello dentro, ecco. E anche fuori, però fuori non lo diciamo, io te dopo girare con i lastre, amico mio. ci colleghiamo invece con l'amico che viene dopo. Ma che fuori si vede, che dentro sì, bisogna scoprirlo. È bello, biondo, occhi azzurri, va bene. Ci colleghiamo con Capuano, che è la trasmissione che viene dopo, che è tutti convocati. Okay. Questa è l'ultima puntata, devo salutarlo. Capuano, che era soprannominato a me, ma è una gioia, perché ogni volta che c'era il campionato la mia squadra perdeva. Quest'anno invece no, perché l'ho sentito meno. L'ho sentito prima che la mia squadra giocasse. Capuano, che è successo nell'automobilismo? No, cosa nel sta succedendo? Cosa? Perché sì, mancano ancora 8 giri alla fine. Allora, in testa c'è Ricciardo, poi Stroll, Bottas, Vettel e Hamilton. Questi sono i primi 5. Hamilton ha appena superato Ocon, Vettel l'ha superato un giro fa. E sta succedendo di tutto, gara lunghissima anche perché è stata a lungo sospesa con bandiera rossa, una serie di incidenti, ecco, micro contatti, per tantissimi giri si è anche girato dietro la safety car. Il culmine di tutto in regime di safety car è stata la lite incredibile, clamorosa, mai vista in pista tra Vettel e Hamilton, con Hamilton che ha rallentato in maniera un po' maliziosa, ma poi insomma capiremo, Vettel che lo ha tamponato e poi si è accostato e lo ha preso a ruotate. Che bella, ma tipo Cars, cioè, tipo Cars, Walt Disney, sì. Pixar, che non finito doppia. Non adesso l'ha presa benissimo la giuria, ha esatto, dato uno stop and go da 10 secondi a Vettel, sì, ma due giri prima Hamilton era stato costretto a rientrare perché gli si era staccata la protezione per il casco. Appena ti ho pensato alla protesi. E quindi stava guidando tenendo dietro, ma veramente in senso... Vabbè, ma una squattata, hai presente tu quando vai al mare che devi, sì, tenere, che magari da dietro non ti venga davanti qualcosa nell'abitacolo? Esatto. Ecco, lui guidava alla stessa maniera, ma 380 all'ora. Vabbè, dai, e quindi siamo a 7 giri alla fine. Ricciardo, Stroll, Bottas, Vettel, Hamilton, più o meno adesso dovrebbero essersi fissate le posizioni, ma Per cui se andavano sugli spazi, se arrivavano uno primo, secondo te, seminavano su la bottiglia di champagne, non sapriva, si chiudeva sulla capoccia di qualcuno. Di Valentino sai, vero? Valentino ha vinto, Valentino ha vinto, ha vinto ed è una leggenda, 115esima vittoria nella sua carriera. Ha vinto in una gara che anche questa è stata particolare, perché a 8 giri dalla fine ha cominciato a piovere, Valentino Rossi stava andando in fuga, quindi era abbastanza tranquillo. La pioggia ha rimescolato tutte le carte, ha dovuto sopportare gli attacchi di Petrucci, di Marquez, di Dovizioso. Sono stati davvero momenti entusiasmanti. Alla fine Valentino Rossi ce l'ha fatta, ha vinto davanti a Petrucci, poi che Marquez bello, che è proprio all'ultima curva ha superato sia Kračlov che Dovizioso ed è arrivato terzo. Il mondiale ha 4 piloti in 11 punti, Dovizioso 115, Vignales 111, Vignales che oggi è caduto, Valentino Rossi 108, Marquez 104, e anche qui se ne sono viste e sentite di tutte. C'è stato un mezzo contatto tra Zarco e Valentino Rossi dopo la gara, gli hanno chiesto a Valentino un commento e lui ha detto: oggi ho capito che Zarco non è cattivo, è proprio scarso. Ha parlato sotto metafora. Va bene, Capuano, vuoi salutare Mariella Nava? Vuoi cantare qualcosa? No, non canto, ma lo faccio per voi, non per... Vabbè, ti ringrazio. Io canto bene dentro, capito? Sì, esatto, sei come il marito di Mariella, bello bene, va bene, ho capito. Va bene, Capuano, ti abbraccio. A te all'anno prossimo, che per noi l'anno prossimo sarebbe settembre. A noi chissà, 20 agosto siamo qua. Tu e io dopo, un po' dopo, va bene. Ti devi accontentare del meglio di fino. Sei a quel vergine? Punto. Sono vergine. Come mio marito. Pure. Come tuo marito, belli dentro e vergini. Ciao Capuano, ciao, buona trasmissione a tutti convocati, ciao, a tra poco. Ciao. Ebbene Mariella, siamo giunti a the end of this puntata, però yes, insomma credo che sia l'inizio di una bellissima amicizia e chissà che cosa dopo rimaniamo. Do you like me? I like you, Dama, from a lot of years that I love you, not now that I know you. Sembra il Gerardo di Lella. Tu ti rendi conto che parlo peggio degli idoli americani a Brooklyn, cioè una cosa brutta. No, ma poi mi faccio capire che mi vergogno a parlare inglese, cioè tu devi parlare dicendo anche il tuo nome in inglese quando stai lì. Io in inglese, in America mi chiamo Einsegnau, non ce l'ho. Che vuol dire? Insegno, capito? Hello, Mr. No, non riesco a fare, capito? I tell you, annoiava. Sono tutti suoni gutturali. Sì, no, ma a Londra litigo sempre perché loro vogliono che tu parli esattamente. Come? No, cosa lì. Litigo con tutti i tassinari di Londra, sono litigato. Russell Square, Russell Hotel, beg your pardon. Oh, Russell Square, Russell Hotel. What's, Io pure ci ho messo non so quanto a imparare il raccordo che era roundabout. Io dicevo prima Gloucester invece Gloucester, vabbè, vita, ma ci sta. Mariella Nava, ti vogliamo veramente un bene dell'anima. Grazie, e adesso rimaniamo insieme dopo a microfoni spenti. Io ringrazio i miei amici, collaboratori, colleghi dei Barahona, nei nomi di Vito e Delio Caporale, Daphne Nisi che piange continuamente guardando Mariella Nava o guardando il marito, non lo so, vabbè. Eleonora a Tosto, e allora insieme faremo delle belle avventure anche quest'estate e poi ricominceremo sicuramente, yes, con l'anno nuovo. Mariella, veramente grazie. Grazie davvero. A te. Di cuore. Grazie a voi. Noi godetevi Voice Anatomy il meglio di tutta l'estate e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12. Grazie ai miei tecnici del suono, oggi Alessandro e Valerio, che si alternano in maniera straordinaria. Grazie Rachele, caporedattrice, veramente formidabile. Grazie ai miei autori, a Mauro Meconi e al capo progetto di Voice Anatomy, collega l'ha voluto fortemente, che è Alessia Navarro, in arte Frida Kahlo. Grazie. Grande ciao, Pino. Ciao.